esattamente bloccato mentre Allora, vediamo se così va più forte. Sembra di sì. Ok, quindi questo è collegato. E questo va bene. aspetta che Non io sentirci tramite il microfono. apro la porta così E si muore dici che non è passare. tanto alto? Posso provare ad alzarlo? Aspetta. Arriva un sacco di segnale. Quanto sei serio? Beh, vedi che in realtà ogni barriera ha un minimo. Fatica per farvi Sì. morire. Ingresso, volume di uscita, Considerati i volume di muri di pietra grossi ingresso, che ci sono alla porta, penso che sia. volume di Vabbè, ingresso. No, questo è il volume di uscita. capito. È che la prima bussata come fai? Bisogna E tu entrare. qua? Si non bussa. so se E gli hai dovrei, chiesto dovresti la fare password forse per così. entrare? Utilizza porta audio per, ma non è una porta audio. Sì. La principale comodità di fare così era che era già tutto montato. Sì, Non mi giusto. senti? È uno special questo. Ti sento più basso perché Però senti me. No, quindi non lo sentite. Mi senti bene, Però il volume di Saladin? ingresso è al massimo, cazzo. Sono dentro la tua Ora è testa. peggio. Non puoi fuggirmi. Ora è peggio. Posso spremerti le meningi Vabbè, quanto mi ma ci pare. sente, ci Ti sente. ucciderò a Boh, forza di non ho capito se lui battute. non ci sente proprio o meno. Vabbè, lo stesso. Ci sente. Guardalo come si contorce. Va bene, proviamo con la diretta. La diretta, se l'appoggi su quello scatolone, secondo me Lui però non ha un Che cosa dobbiamo attacchino. prendere oltre a un computer Secondo nuovo? me lui Una non ci slava che stia così con la diretta e giri, faccia così. Chiede proprio slava perché Esatto, perché perché è costa una slava? perché costano meno. Ah, giusto. Ma cosa prendi tipo No, Dipende, così, però. così sei razzista perché sono più brave. Slava di dove? Perché cambia, eh. Beh, facciamo Moldavia. Così. Il paese più povero d'Europa. Giulio. Per quella, beh. Per darlo lavoro loro che ne hanno Forza i bisogno. tedeschi. Ma Giulio non era così fino a qualche anno fa. Chiudeteli, chiudeteli, chiudeteli in gola, Se avessero vinto i tedeschi chiudeteli, sarebbe stato Cosa meglio. c'entrano i tedeschi? Non sono i più ricchi. Se lo metti là. Cosa c'entra? La Moldavia non è povera per colpa di dei insomma, tedeschi o di un qualsiasi po' sì, No, eh. però sembra che tu volessi inneggiare ai popoli No, ricchi, quindi i tedeschi sono i più vedi che ricchi. Moldavia la Quello maggior parte dei furti è a base Aspetta, della show. famiglia dei ladri Allora, tedeschi. io non penso che lui ce la farà, però ci proviamo. La realtà sembra andare bene. Che 80 milioni rubano altri. Prima li chiamano crucchio, li chiamano Come lo vuoi cricchi. mettere? Battista 5 No, milioni. diciamo là, lo Lo metti là dentro davanti a me. Vabbè, Secondo me non questa io vedo un non l'ho cazzo. sentita. Però adesso guardo, faccio due o tre prove. Quello che Non l'ho volevo fare in sentita, verità non era preparare questa. Dai, passa l'astuccio di Vez che prendiamo. Come scusa? Sono di nuovo qui. Nel tuo piccolo mondo. Senti, ho un Vedo riassuntino, me lo fai? quello che pensi. E so quello che vedi. Vuoi delle escargot? Senti un riassuntino. Fai, no, più che un riassuntino, dammi il titolo. Il titolo è Il prezzo del Penso. benessere. Avrei detto breve, ma Mio. intenso. Sai che? Questo è tuo. Adesso sto cercando ancora di fare, non ho capito qual è il Abbiamo problema. fatto Ma sparire. E qua ci sono un po' di problemi tecnici, ma cominceremo prima o poi. Tipo me. Tu laghi troppo orecchie, capisci? Io sono Ultron. Dipende Allora, quando starta la diretta, secondo me sì, li impazzisce. avevo ed or non più. Com'è il prezzo? Il prezzo dell'evoluzione, non c'è il qual è. Tra l'altro adesso su Netflix è uscita Avengers Ah, pensavo il prezzo dell'evoluzione. con 5 stelle come se fosse il filmone del. E invece è uguale a Batman vs Superman. Ma va colorato. Allora, intanto non capisco perché non c'è Ema. Comunque non c'è il Bologna, l'ho sbagliato. Il prezzo. Ma chi se ne frega? Startiamo o no? Vez, cosa fai? La e lei diretta in ha diretta? capito, nel senso, nel momento in cui devo fare tutto, E di Vez sta qua, di facendo la qua. parte della slava in questo momento. Cioè, deve starmi un minuto. Che tipo di slava? Allora, se lo mettiamo Quindi qua. se eravamo a casa di Kat, l'amica invece che Chi fare è la valigia Kat? faceva tutte cose così. Capito Michela cosa sta dicendo? Siamo in diretta? No, però Possiamo nel dubbio sto prendere registrando io l'altro qui. Vabbè, appena mette la diretta lo dico io quello che hai detto. Appena dice, appena mette la diretta. Bravissimo, facciamo un applauso a Michela che è bravissimo a fare le Appena parte la diretta ci penso io. valigie. Un applauso a Kat che nonostante tutto qui con noi, Quindi, Vets, quella è la ripresa della nonostante diretta. come vuoi, morto. Se vuoi, adesso possiamo mettere anche un. Perde tempo perché non sta neanche giocando. Gattabriga. Pur di non fare le valigie. Cosa vuoi che ti porti dal Giappone? Che falso! Ma non me l'hai chiesta questa cosa? Sì, ti sei No. anche risposto. Il sushi, il sacchettino sotto il vuoto, me lo ricordo. No, non ho detto la quantità. Il bagaglio a mano, quant'hai come capacità? Spero non vada solo col bagaglio a mano. Ah no, Stiva? Va bene, fai Visto. così. Un salmone intero. Va bene, ti usi tutte le mutande, le canottiere, i vestiti addosso e lasci la. Sì, bene. Puoi anche buttare, poi quando torna nel compito. Beh, metti là la zecca in casa. Quindi sono mutande. Cioè, fai, Se li spedisci, vuoi poi la qualcosa? valigia poi mi danno. Se vuoi possiamo mettere quel cosino lì? Pensando a questo. No, Vez, vedi quel cosino lì, Vez, quel mobiletto lì bianco, quello lì, se vuoi lo prendo e lo mettiamo qua dietro. Il Preferisci? mio problema è che Se trovi una se cazzata e pensi a me. così prendiamo salla. Salla, cioè, Ma non devi così prendere per forza. qualcosina non è malissimo. Non Ho detto che puoi salla, pensare. non si vede, non si vede. Contorciti. Sulla freccetta del mouse. Allora, il microfono lo mettiamo. Vabbè, sicuro. Non c'è, va bene relativamente, si vede Ma se lo qualcosa. mettessimo lì dietro Katta, scusa, che sarebbe perfetto. Dietro Katta. Katta è quello. Ti Sì, dico lì. sì. Il Lo dico problema è io. che lui è un po' più non ci arriva sicuro da là. Non Ma scusi, mi è arrivato fin là. lo so, riuscite a vedere se si Vabbè, se funziona va da qua. bene. Ah, dici controllare. Cioè, guardiamo una cosa. Vai. Miki? Sì. Ci ho paragonato a una Uno slava? di voi Non è vede. vero! Però stai facendo Aiuto. pubblicità alla Apple. Non so come dirtelo. No, dai, non è male. Sì, No, dai. non è male. Cioè, se ci spostiamo un po' più in là, ci Un entriamo po' tutti. più Ma in riesci a qua, girare leggermente? No. no? Sì, ma Posso fai anche un incoraggiare? branco, Chi se se ne ne frega, frega? visto che. Ha capito, aspetta un secondo, dimmi se ti viene Secondo d'accordo. me, se riesci, ma proprio di un grado più in là, e becca tutti. E Ma se sì, riesci a anche girarlo più in là. così. Sì. Basta che ci spostiamo più vicini a Shirt, Sì, esatto, vabbè, ma sulla se scorretta. mettiamo un Esatto. pochino. No, lascia fermo, lascia Però fermo. sì, la Apple ci deve qualcosa. Stai fermo, Mezzo. È già super invidico. Che cosa dici? E ringraziamo tra i nostri sponsor, si aggiunge la Apple, come vedete. Vabbè, rispondo un po' di Microsoft Penso per pareggiare. Bravo. Ripeto che Miki Sceo ti ha dato della Ma slava, non è nel caso non si fosse vero! sentito prima. Ma non è... No, allora, la parola slava l'hai usata No. solo Vediamo se tu. riesco a passare. Ha detto qualcosa di peggio in verità. Esatto, che va a che fare con la classe preferita delle slave. Allora, Cioè, Quintelli. fare Non valigia. fare Questa era di gioco di facile, ruolo. cioè, non è che Razza vorranno... slava, Mi alzo. classe preferita. Quintelli. Preparatrice, valigia. No. Ah, l'altra? Non è vero. Vabbè, ci vedrete al buio, ma vedrete i cappelli. Questo è importante. Va bene, allora, direi che Siamo figure siamo in importanti in diretta. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Questa è Oh. l'ultima Nel edizione 2016. dell'anno, del 2016. Mi puoi È mettere il stato un anno cappellino per bellissimo favore? per noi. Come Ah, scusa. scusa. E, io lo amerei, ma... è Unstructured Heroes, of course. Quindi quinto episodio è praticato il master per provare a farmi dare il titolo. Il prezzo dell'evoluzione, il prezzo dell'evoluzione non lo vuole dire, e questa è ovviamente l'edizione natalizia, anche se non è speciale, però è comunque sì, va bene, però è comunque è la prima di Natale, quindi noi siamo... con queste parole lanciamo maestro sigla. C'era il balletto. No one ever would die. Cause to the space past. Superpowers pass. Pezzino fa cantante solista. Dove si la diretta, no? Così riesco a anche... Via! Bravissimo! Se invece vuoi puoi suonare il basso o fare un duetto ballerino. No, io non... Dumpster non mi viene anche un po' adesso un caso le spalle brutto gambe e precipita, inizia adesso, sento più le spalle. Vabbè. Ok, va bene, dopo staccare la... Ma hai aggiunto Emma? A cosa? Sì. No, non l'ho aggiunto. No, comunque okay. Potevi fare uno speciale di Natale, sì, visto che tutti lo volevamo. Si vede in diretta. Ci ha il cappellino di Natale. Va bene. Ma non viene. Ha fatto così. Va bene. Quello è sempre il microfono della testa di Salla. Non è la testa di Salla, è quello che sei. Tu comunque qualcosa sapevi. Vedi? Cosa c'è lì dentro? Ah, questo... E la registrazione... Questa è per... Ti conviene fare il bravo. Per tutti voi. Se smetterà di sgranocchiare vicino al microfono. Magari teniamo lontano dal microfono così non si sente continuamente. Cos'hai preso? Se il tuo nuovo lavoro vendi quella roba lì. Vuoi fare un gran mercato, bacio. Ma non sono anacardi zuccherati? Caramellati? Sì, no, c'è tutto in realtà. Cioè, le anacardi che ci sono sopra gli anacardi, ma in realtà c'è un mix. Un mix. Wow. Cioè, sono anacardi con sopra anacardi. Dai, fatemi un riassunto. Vai, allora, sì, il riassunto della scorsa puntata lo fa Arci. No, perché? Perché ospita, chi ospita fa il riassunto. Però mi avevi già interrogato, mi avevi già interrogato la volta scorsa. Va bene, tira un dado io. 1, 2, 3, 4, 5. Ci viene fuori Ema? Da 10. Adesso farà come la Tubi. 1. Una domanda tecnica. Se dobbiamo andare in bagno. Meglio. Si può andare giù. Ah, ok. Catta. Catta per riassunto. Fai un angolo, il power player. Mi si sente? In power player. In realtà il microfono della diretta è l'altro. Questo è il microfono della diretta, ma lui prende, non ha problemi. Allora, questa è quella nell'ultima sessione abbiamo fatto nell'ultima, scusa? Sessione, ecco. Abbiamo superato una grandissima prova di coraggio. Beth c'è quasi rimasto secco, ma la Fondi Conti non è un personaggio principale, quindi è sacrificabile. Abbiamo avuto uno scontro con questo agente che ci voleva. Scusa un attimo, Vez, ho avuto l'ok da Marina. Un'altra slava? Sì. Ottimo ricordo. Beh, tecnicamente forse. Quindi Jordan, se ci stai ascoltando in italiano per qualche motivo, puoi venire. Capisci? Ah, Vez, te lo dico in anteprima. Io non dirò una parola di francese. Ah, tu parlerai in francese con lui. Voglio che sia chiaro questo, Cristo. Non sei anni e sei in Francia non sai francese. È non uno. È questione di non sapere, è questione di schifare. Va bene, vai. Bravo. Vabbè, catta, continua, quindi dai. Siamo ritrovati in questa casa a quanto pare deserta, disabitata. È arrivato un tizio che ci ha cominciato a sparare addosso, tanto per cambiare. No, ma catta, devi fare il riassunto. l'ultima puntata. Vabbè, vabbè, vai, vai, vai. Abbiamo conosciuto quindi la nostra amica Claudia. Due, sta facendo recente due episodi. Per capire dopo che cosa succede. Beh, capito, allora spieghiamo che abbiamo i benvenuti. Vabbè, dai. Volevo ricordare come mi sono destreggiato uscendo dalla finestra. Del tetto. Me lo faccio ricordo a tutti. E dopo aver neutralizzato il nostro assalitore, siamo a quanto pare stati tipo assoldati dal professore per tramite Claudia, quindi un grosso passo in avanti dato che l'ultima volta Slava voleva ucciderci con la K. E quindi ci hanno cominciato a dare le prime missioni per testare la nostra inutilità. Esatto, la nostra inutilità. E quindi ci hanno detto di andare a perquisire questo vecchio magazzino a Borgo Panigale. Nel frattempo, dove ci sono un sacco di slave. Nel frattempo, stasera hai visto troppi porno con le slave. No, sono un, com'è che si dice ancora? Realista italiano. Realista immaginifico. Bene, e, tipo ci ha detto che gli potevamo chiedere dell'equipaggiamento, noi abbiamo fatto una lista chilometrica e lei ci ha dato poche briciole, lo sarete indispensabile. Basta un po' anche briciole. E poi niente, abbiamo scoperto che dell'esistenza del maestro, ovvero questa entità superiore. Il maestro. Sì, inutile, dai, vai avanti. No, lo diresti però se fosse qua. Lo direi anche se fosse qua. Anzi, ha maggior ragione. Lo direi, ma sottovoce nell'altra stanza. Abbiamo scoperto che ha il potere. Che Giulio si deve riprendere dopo la giocata della scorsa settimana. Sì, è stato davvero. Canta, comunque si chiama riassunto. Perché io ho visto il pezzo in cui litigavate per l'abito che hai comprato. Basta, se Giulio la scorsa sessione ha dominato. Se volete che Canta non faccia più il riassunto. Tutto, ma da stazione a dove? Dimmi. Poi boh, quell'altro abbiamo volete fatto. Insalata russa? Ci siamo messi d'accordo per andare a perquisire, a perlustrare questo magazzino. Okay. Allora direi che il riassunto è finito, e anche se non lo fosse, lo è da adesso. Quindi siamo lì davanti a Borgo Panigale. Sei arrivato lì? Voi siete a Borgo Panigale? Per... No, siamo eravamo andati a Borgo Panigale qualche ora prima, decidendo di mangiare lì in zona qualcosa per poi andare. Siete andati vicino al magazzino con due macchine, mi pare. Io ero in motorino. No, eravamo una macchina, quella di Vess, Catta in moto, se non ricordo male, e Catta in motorino. Okay. Era la tua la macchina, vero? No, no, era la mia. Era la tua? La macchina di Giulio. Ok, macchina io di sono ferito, quindi io dicevo che io e Giulio aspettavamo il macchina. Mentre state andando, mentre state andando, sentite. Mm. Decisamente. E ciao, tutto a posto? No. E senti, io... No! Ah, ok. Aspetta, accosta. No, scendo qua e prendo l'autobus. Sì, arrivo subito. Ciao, amore, ciao. E Ria, io... Tu lo sai che non accosto mai, vero? Eh? Io non accosto. No, dai, accosta qua, raga, io devo fare una cosa. Dai, vabbè, hai capito, cazzo. Ma è dietro o è di fianco a me? Cioè, Turgi, dove è? Tutto a posto, Emma? È dietro. Raga, mi ha chiamato... Dai, su, lo sapete. Devo... Dai, prendo l'autobus, non c'è problema. Apro la portiera al volo e lancio giù, Emma. Non può. Dai, no! Se non vuole fermarsi, Giulio, però... Ho capito, ma... Da roleplay. No! No! E finalmente dovresti essere contento, Giulio. No, mi devo fermare, dobbiamo scendere tutti. Vabbè, a sto punto non prendeva il motorino lui, cazzo. Ah, perché bisogna lasciare il sedile di Giulio. Dai, raga, su, dai, veloci, devo tra tre porte. Sì, ma adesso ci fermiamo appena c'è uno spiazzo. Fermati, dai, c'è la fermata qua. Mm-hmm. Cazzo, l'ho passata, mi dispiace. Dai, Giulio, fermati. Beh, oh, questa dimostrazione di quando la gente. Sai i bambini, sì, cazzo? I bambini. Oh, bambino! Vabbè, a un certo punto mi accosto e scendo. Oh, dai, cazzo! Possibilmente più lo... sei stato bravo. Aspetta, dai. Che autobus devi prendere? Non lo so, adesso guardo su internet e basta. che è diventato Yak a un certo punto quando ride. No, Eva lo fa una... quando si incazza, fai ridere. Dai, su. Ok, mi fermo più lontano dalle fermate che posso. Va bene, bravo. Ciao. In mezzo a una ronda, se è possibile in mezzo a una ronda. Ciao Emma, dai, non ti preoccupare. Ciao, raga, oh, fate attenzione, però scusate, sai che certe cose, dai, hai capito. Ciao, sì, ciao, per fortuna che hai detto non abbandonerai mai un amico, riferito a Vezzo l'altro giorno. No, io non lo abbandono, infatti io vi avevo detto, adesso, io vi avevo detto, cazzo, di farlo la prossima settimana, e voi avete detto no, perché a noi non frega niente della salute di Vez, ciao. Fai retromarcia, ti glielo dico. Ok, ditemi. Beh, aggiungiamo che ore sono quando arriviamo lì? State partiti alle... No, alle 7 arriviamo là. Sono più o meno le 7, sì. Sono le 7. Sta facendo pezzo. Boh, foto, ricordo. Puoi farle per le immagini. Adesso dopo le metterò. Uè, da dove ti giocare? Beh, andavamo a mangiare, non lo so, lì in zona c'è qualcosa tipo un fast food. No, prima facciamo tipo un giro nel capannone. L'avevamo già fatto, Luigi aveva detto che era esattamente come l'aveva visto lui grazie al satellitare. No, ok. È vero che gli ha lobby internet. Lobby. E quindi bisogna rubare le mail del Partito Democratico? Lobby internet. Non è stato esattamente così. Vuoi usarlo? Per le chiamate Skype. Vabbè, ma la mia... Cosa fate? Sì, direi una roba tipo fast food. Che locali ci sono in zona? No, aspetta, Salla, parla un attimo. Che vuoi? Ma cazzo. Ingannato. Skype. Detto Skype di merda. Tu non puoi parlare. Puoi sentire me. Quello è inutile che ti dibatti. Scargo. Se volevo usarlo come dispositivo, lui ha pensato che fossero le cuffie. I tuoi rumori sono mutati, le tue richieste cosa sono mutati? Spero che magari lui ti sta spiegando come puoi farlo. Come cazzo, tu non lo senti. Come cazzo faccio? Non Salla. Ci credo. La disperazione di Vez è pari quasi alla tua in questo momento. In teoria, sì, nelle impostazioni di Sky dovrebbe esserci. E lui ha fatto la scelta così a cazzo, se perché... Beh, no, te l'ha chiesto tu. Sì, questo. Sì. Non so, non c'è tipo una chiesa. Ringrazio che non c'è Skynet, se no non c'è guerra mondiale. Oh, io dal 4 dicembre che dico di votare no, ho messo sì. Non c'è tipo di Pristina. Allora, scusa, non mi sentite? Altoparlanti? Integrata, no, perché io mi sento allora. Sì, okay. Tornato. Sì, Salla. Sì. Stavo dicendo, dov'è che andate? Andiamo a mangiare. Non lo so, lì sono le 7. Sono le 7. Per me è ora di cena. C'è il Mac. Esatto. Mac è sempre aperto. Sì, però rega, no. No. Sennò io mi abbuffo. Stiamo leggeri perché poi abbiamo una missione e bisogna essere agili e scattanti. Quanto mangiare? No, al Mac no. Non un sushi. No, qualcuno guarda che locali ci sono a Borgo Panigale. Beh, Salla, mangiamo anche solo in un bar che magari chiude, così ci prendiamo un panino. Per non essere. Ma andiamo al cazzo di Mac. Tu stai morendo. Stai morendo. Di prendere cibi sani che ti. Dai, così siamo veloci, siamo un po' distanti. Andiamo al Mac. Però è il gioco di ruolo, Appunto, è uno dei motivi per cui 498 euro. Segno. Toglietevi circa 10 euro a testa, non so quanto volete prendere. Ah, io di solito prendo 4 hamburger e un'acqua naturale, 5 euro. Anzi, 5 euro. Cena? Al Mac, che cazzo vuoi che prendi? So, io so che spendo tipo 8 euro. Sushi. Non mi so che spendo tipo 8. Beh, Salla, queste cose comunque le facciamo generali, sennò... Il menù è 7, 1 è e l'hamburger, quindi 8 euro. Dove rimane? Io ho cercato Borgo Panigale a cazzo. È sulla questa, sulla scusa, saranno quello. Quello dai. Esatto. Ma no, capito, ah, sì, capito. Va bene, sì, stai. Ripassate la matita. Salve, però posso fare una cosa? C'è un conflitto di interessi tra l'interpretare il personaggio e i soldi che ci hai dato, nel senso... devi interpretarlo bene. Allora, ci vorrei ricordarti che nel FTG... C'è scritto che prendo gli Happy Meal, di solito, dovrei aver scritto. No, c'è scritto... Arci. Sto piccolo. C'è scritto esattamente dipendenza da cibo. No, non l'ho scritta. No, questa cosa mi è nuova. Sì, dimmela. Perché hai preso un'abilità in più e quindi hai delle merde in più. No, dove devo scriverla? Dimmi dove devo scriverla. Aspetta, la dipendenza da cibo credo che sia... Molti animali ce l'hanno. Sì. Tra cui l'arcidiacono. Dimmi dove devo scriverla, Salla. In particolare. No, puoi mettere... Professione? No, in tipo... O armi. Malattia o qualcosa del genere. Dove sono le malattie? No, sai, disturbi mentali. Potremmo provare senza casse, no. Cazzo, sono scusa. No, c'è, cioè, disturbi mentali. Vabbè, Sara, lo metto in disturbi mentali. Se no metti i segni particolari. Così. Ci metti dipendenza, cibo. Minore. E spiegamela un attimo cosa sarebbe. È esattamente il tuo PG, quando sei in un posto per mangiare e tendi a esagerare. Falsissimo! Vabbè, allora faccio come se mangiassi al Mac in una cena, normale. Normale? Però io, no, vabbè, ogni tanto però le faccio anche mirate al risparmio. Sì, vabbè, una via di mezzo. Considera che dopo devi... faccio 20 euro. 20 euro onesti. L'altra sera siamo andati al Mac. L'altra sera siamo andati al Mac tipo alle 2. Ha preso un Big Mac, un Crispy Mac Bacon, due hamburger più un hamburger di pollo. Vabbè, tranquillo. Non è neanche un terzo di quello che prende. Sì, esatto. Questi non sono i giocatori che stavi cercando. Sì, comincio a pensarlo. Ok, andiamo al Mac. Io prendo un menu classico. Io ho preso il mio menù e un hamburger, 8 euro sono scalato, mi sa, no? Sì. È 7 tipo il menù. In teoria il menù è 7 rotti. Facciamo che è 7 il menù. Ma io prendo quei chicken McNuggets, non quelle cose obese. Tipo... No, un panino normale. Tipo... Va bene. E più o meno quanto tempo state al Mac? Dai, mi tolgo anche 50 centesimi. Un'oretta? Al Mac siamo 20 minuti scarsi. No, ma dipende se vogliamo farlo con calma. Vabbè, vogliamo farlo tipo sì. Vabbè. Sono le 20:20. Ok, passare le gomme. Tanto fuori è caldo, a settembre possiamo anche cazzeggiarli in giro. 20:20. Ok. Bene, raga, qual è il piano? 40. Ok, scusatemi, intanto noi eravamo tutti d'accordo di entrare in azione tipo intorno a mezzanotte inoltrata, no? In realtà sì. Quindi che cazzo stiamo facendo? Andiamo a aspettare tipo 6 ore? Andiamo ad appostarci, vediamo i movimenti. Cosa? Per 6 ore? Sì. Siamo in macchina, al caldo, intanto siamo... Dai, il 4 settembre! Perché... Sono 35 gradi! Vabbè, Salla, allora tiro giù altri 5-6 euro dal coso, cioè... Vabbè, stiamo un'ora al Mac. Ma no, vabbè, se mangiamo alle 8:20 dobbiamo entrare alle 2, alle 3 nel palazzo. Sì, magari ci prendiamo adesso anche il dolce. Oh, ma raga, ma noi siamo al secondo livello. Quindi? Non cambia qualcosa. Che puoi avere un potere in più. Cioè, più soldi. Esperienza. Scusa, il nostro potere non sale di livello? No, se non lo potenzi tu. Devi pagare, Vez. Pagare. Quanto si paga? 20 credo il primo. Vabbè, per un livello in più, cioè per un potere in più sì, però potete anche aumentarlo, mi sa. No, per aumentarlo non so, che costa anche 30. Non mi ricordo. Non ho guardato, però per la prova. Mi sei la matita, pezzo. Vabbè, niente, vai. Allora, l'idea era verso tipo facciamo mezzanotte luna. Mm-hmm. Dovevamo agire e l'idea iniziale era che Vez e forse anche Giulio facevano da palo. Allora camperiamo in macchina girando un po' anche lì a casa, no? Io esatto, direi di rimanere in macchina, tu metti il motorino in un posto che insomma ti farà girare ovviamente. E poi ci saliamo tutti e cinque in macchina e giriamo un po' all'intorno oppure ci appostiamo. Io adesso, cioè, carburante lo paga pantaloni, eh? Sì. No. ho capito giusto, dai. E quindi sì, vabbè, più, per la maggior parte del tempo staremo fermi. Giulia? Ci siete? Per aumentare di un grado, Vez, devi prendere da minore a medio, devi prendere, devi pagare 30. Allora, io sono quello che... Tu pensi quello che sei diventato? Esatto. Da minore a medio 30. C'è anche Salla. Anche credo tu debba essere anche al livello 30. Da, mossa. Da minore a medio 30, non li ho. Grazie, grazie di New. Okay. E devi quindi essere di livello 3. Quello che puoi quindi comprare adesso è un nuovo potere. Uh-huh. 20. 20, sì. E oppure anche ridurre il difetto. Che costa 20 sempre. Ridurre il difetto. Sì. Il difetto che avete è minore. Si può miglioria si chiama. Miglioria, no? Cioè nel tuo caso il mal di testa. Ma se lo potenzi o lo fa automaticamente o no? Se tu lo potenzi ti potenzia sia il potere che il difetto. Ah. Cioè cresce tutto. Ah, cresce anche il difetto. Mm-hmm. Mm-hmm. Certo. Quindi conviene tipo diminuire il difetto prima di potenziare. Cioè, il mio difetto in questo momento è creature ribelli, giusto? Sì. Sì, quello che c'è scritto. Cioè che non ti ascolto. Miglioria e 20, comunque non li ho, quindi non c'è creature ribelli però. Che non lo ascoltano per forza. Fai questo, cioè, dice quelli, quelli, quanti ne hai? 17. Perché hai 17? Ne ho spesi 5. Ho speso 5 per far disattivazione volontaria. Va bene, Salla. Allora, gironzoliamo fino sì, gironzoliamo direi fino a mezzanotte luna. Siamo a mezzanotte, diciamo. Posso tirare Salla su riflessi come prova in questo periodo mentre stiamo lì a gironzolare con la macchina? Facciamo due giri, neanche facciamo... Riflessi cosa vuol dire? Cioè, beh, immagino, c'è l'occhio che guarda, immagino sia tipo l'osservare, no? Ah, osservare, vabbè. Sì. Cioè, in questo tempo che gironzoliamo lì? Sì, sì. L'idea è di controllare ovviamente i vari movimenti. Sì. Ora che cala il buio, se le luci sono accese, piace. Insomma... Mm-hmm. Continuiamo a fissare tra virgolette l'edificio per capire se succede o meno qualcosa in queste 4 barra 5 ore. Considerando Salla che mangiando al Mac ho anche mangiato della carne di maiale ricca di vitamina A, non posso avere un bonus per salvare. Va bene, tiro un D4. 4. Ok, ah, allora no, gironzolando l'intorno vedi che non ci sono verso, diciamo, verso mezzanotte o avvicinandosi a mezzanotte vedi che la gente comincia a diminuire e gli unici, le uniche macchine che vedete sono quelle che fanno lo stradone la come cazzo si chiama, sì, sì, la 6 corsie, non so come cazzo si chiama. E la gente invece che gironzola intorno nelle viuzze dove sono, dove è il magazzino, è molto meno. Mm. Si vede del movimento all'interno? All'interno no. E luce accesa, non ci sono finestre. La porta che cos'è? È una porta semplice? La porta è una porta di metallo con una maniglia di quelle da capannone, da industria, da fabbrica. Capito, ma è piccola la porta? È la classica porta o è un po' doppia? Però c'è una maniglia sola. Mm. Non ci sono finestre? No. Nessun lato? No, Su Google Maps l'immagine del tetto, ci sono delle finestre sul tetto? Dette anche un giornale? No. Grondaie non ne vediamo? No, ne è un cubo? È un magazzino. Diciamo che contenendo oggetti non ha bisogno di finestre. Ragazzi, costa pochissimo zucchero. No, grazie. Guarda. No, sono allergico. Allo zucchero? Sì. Ma ce ne è meraviglioso, gli amici con lo zucchero. C'è un, se, se vi interessa, c'è una sorta di edificio piccolino, c'è un prolungamento del magazzino dove c'è probabilmente il condizionatore. Perché c'è una grande ventola che Puoi buttarti dentro, cat. Ricorda qualcosa le ventole. Peccato che non ci siano Jedi. È quello che credi. A me ricordo quindi scusate, ho perso un attimo le cose. L'entrata solo questa ventola. Solo questa porta. No, la ventola è quella del condizionatore. Quindi non ci passa. La ventola è in alto. Ma è, non è nel, è nel gabbiotto del condizionatore? Non è nel gabbiotto. La ventola è nel gabbiotto del condizionatore. Ah, no, ok. Aspetta, no? È un altro edificio a parte, tipo abusivo, okay. Attaccato di fianco. Ma cioè, per il ricambio d'aria, cioè... Siccome lì dentro siamo a Borgo Panigale, uno, quindi quelli che lavorano lì sono considerati animali, e due, e due è un porta oggetti, non è un... Ho capito, però comunque per l'umidità, per queste cose qui, un ricambio d'aria deve essere un qualcosa. C'è quella specie di coso del condizionatore. Ma sei staccato? Cioè non capisco questo. No, è il gabbiottino che è staccato. No, c'è un sistema di... questo è il magazzino, okay. E qua c'è... Sì, ovvio che la presa d'aria sarà la presa d'aria sarà non è il gabbiotto del condizionatore di un edificio, è certo, ovvio, questo l'ho capito. Okay. Vabbè, però degli sbocchi pensavo per l'aria ci fossero da qualche parte. Qui c'è solo un'entrata. Sì. E di conseguenza un'uscita. C'è un campanello. Vecchi cioffi. Scalacci. Secondo te. Non lo userei. Sì, c'è un campanello. Sì, è finito. Ma la porta è sbarrata, scusa, Digno. Non si vede da fuori, cioè per essere chiusa, è chiusa. Da sotto la porta si intravede la luce o meno? Da sotto la porta e sulla strada, da una macchina no. Ah, cioè hai ragione che tu sia. Vabbè, stiamo lì in attesa. Stiamo lì in attesa fino alle 2, direi. Dall'altra parte della strada e aspettiamo. Fino alle 2, no? Magari un po' prima. Questo capannone è da proprio sulla strada, non ci sono delle viuzze laterali vicine. Allora, non dà esattamente sulla strada, nel senso che è una viuzza comunque. Allora vado nella viuzza. In più c'è una sorta di cortile aperto, senza, cioè con solo siepi, che lo circonda. E dentro è sterrato. Allora vado a fermarmi nella viuzza. Ok. Verso l'una già, direi. Quando siamo più vicini al capannone, Salla, possiamo ritirare per osservare. Niente, a quel punto Netflix sul cellulare, e aspettiamo. Dipende quanto vicini. Dipende... delle macchine parcheggiate intorno. Non ci sono macchine parcheggiate intorno. Adesso, ci sono lampioni che illuminano la zona, Salla. Questa è una macchina apice che guardava avanti. Solo lampione che illumina la strada. La viuzza, dici. Magico, lui usa la porta per sentire se... E là, ok. Io evoco i demoni. Anzi, diavolo. Ci sono delle telecamere? Tira su osservare. Ovvero riflessi. Sì. Poi Katta ha bisogno del bagno perché devi umidificarsi. Cosa? Storto, Tre? Più? Non ti pare. Jack di cuore. Posso farla anch'io, Salla, provo di osservare. Sì. Ma in realtà voi state guardando dalla viuzza. Sei comunque. Ok, e state guardando dalla viuzza verso l'ingresso, immagino. Sì, dove siamo con la macchina? Sì. Ma volendo con la macchina possiamo circumnavigare l'edificio proprio. Non esattamente, cioè i lati. Sì, cioè li vedete gli altri lati, però non c'è una via che li collega, non so come spiegare, ci sono altri edifici. Quindi voi potete fare una via, l'altra via, vedere cosa c'è intorno, ma non potete effettivamente girare intorno. Se io propongo verso mezzanotte uno o due di noi, e mi propongo io, di fare un giro intorno all'edificio a piedi e ritornare in macchina. Vai. Salla! Se qualcuno vuole venire con me, io lo farei. Io stavo dando anche un'occhiata per le telecamere lì dalla facciata d'ingresso. Ho fatto 6 di dado. Ok. e ti sembra che ci sia una telecamera, anche se è molto buio, e che punta esattamente sull'ingresso ed è nell'angolino della porta. E mi sembra l'unica che vedo. Ci sembra l'unica che vedi, sì. Tipo... io se nessun altro si aggrega volevo fare proprio un giro anche a distanza dell'edificio di qualche metro proprio e ritornare alla macchina della telecamera. Lui se mi dici dove è la telecamera sì vabbè, ovvio che dopo che individuo la telecamera dico rega occhio che secondo me lì c'è una telecamera che dovrebbe puntare proprio sulla porta d'ingresso. Okay. Io c'è possibilità a piedi di fare un giro intorno all'edificio non per poteri, forza però. Andandoci addosso cioè stando in realtà, a sì, qualche però metro non sappiamo dunque cioè potrei cenerirla però perché aiutarmi. Allora, tu sai dov'è la telecamera perché a che altezza è da terra la telecamera? Lo sai, dalla porta di notte l'angolino della porta strada. Ah, della porta? Non c'è nessuno su questa strada e sa che ha una faccia quadrata e una... cioè, quindi tecnicamente essendo lì sulla porta uno volendo ci rimane con la mano e se salta sì. Scusate, abbiamo la super mira cioè, al posto di... dicendo a scemo, infatti. Ma sì, infatti. Sembra che non si muova, ma mm-hmm. sia tipo, sai, quelle a grand'angolo. Quelle... Ah, ho capito, quelle tonde. E dà verso una direzione. Quindi in teoria tu potresti provare a saltare la siepe, girare, e poi arrivare dall'altra parte e risaltare la siepe e uscire. L'unico percorso che non puoi fare è quello di fronte. Ok, ho capito. Tra l'altro, comunque, altrimenti faccio gli altri tre lati e poi li rifaccio al ritorno, così non faccio il lato della telecamera. Esatto. Sì, comunque, a parte tutto, se la telecamera è lì, tu ci puoi tirare qualsiasi cosa. Perché... vabbè, per il momento però no, io volevo solo fare proprio un giro di perlustrazione, quindi se nessun altro mi segue lo faccio da solo. Faccio... no, vabbè, questa cosa qua la posso fare anch'io. Alla fine. Okay. Se vi prendete tutto il tempo necessario, puoi anche non tirare. Okay. Aspetta, una cosa. Faccio da solo? No, vengo io, dai. Cioè, due stanno in macchina, almeno due. Sì, almeno faccio qualcosa adesso. Va bene, allora io e Vez facciamo il giro di perlustrazione. Quindi facciamo i tre lati dove non abbiamo visto per lo meno telecamere e li rifacciamo a ritorno così evitiamo totalmente il lato dove c'è la telecamera che tanto è il lato che noi vediamo bene già dalla macchina. E intanto io mangio gli hamburger e ne offro uno anche a Giulio. Ah, abbiamo preso la sporcia. Io ho preso anche sei hamburger. In realtà non sapevo quanto tempo stavamo qui. Di domani tanto di tempo ne abbiamo quindi sì, riserva di se voi ve la prendete con calma non vi faccio neanche tirare e riuscite a fare tutto il percorsino senza farvi vedere, non vedete altre telecamere, non vedete niente a parte appunto il gabbiotto del condizionatore e basta. Il gabbiotto del condizionatore ha una porta immagino qualcosa. No, il gabbiotto del condizionatore sembra che sia attaccato all'edificio. Quindi probabilmente l'ingresso è dentro l'edificio. Ah, ok, ho capito. E c'è una grata che dà su una sorta di palo. Ah, okay. Quindi in realtà posso intuire che rimuovendo in qualche modo quella ventola ci passi una persona. C'è una grondaia? Sì, no, è abbastanza grande. Ah, ok. No, mi hanno già chiesto. No, non c'è una grondaia? Cazzo, se no eravamo a cavallo. Ok, allora se non fai altro verso tu ti la grata, aspetta però la grata non è tanto in alto Ok, a che altezza cioè è questa ventola non è troppo in alto secondo me, cioè così a occhio sì, conta che stai parlando con uno che non è particolarmente alto in più adesso c'è pure le gambette corte insomma sta parlando uno che non è particolarmente alto e... non è le gambette corte oh, ok se ti fai dare una spinta è tipo una persona e mezzo sì. Quindi tipo 2,5 metri, 3. La telecamera. Anche sì, è il problema è la grata che è davanti. Digno, la telecamerina sporge rispetto al muro, giusto? Esatto, sì. Classico appoggio. Quella dovremmo tirarla giù. Sì. L'unico che può tirarla giù sei tu, tirandogli un sasso. Allora, intanto, pausa, intanto torniamo in marcia. Cioè, parte qualcun altro che potrebbe no farlo. Perché io non potrei non farmi vedere per tirarla giù perché deve essere vicino due essere cose attaccato. Sì ma sì no ma dietro, abbiamo due possibilità vado dietro dove al muro la telecamera ma è grande l'angolo capito sì. il lato sei sulla porta cioè l'unico modo per prenderla è sopra la porta sì quindi comunque ti becca anche se sei sul muro attaccato allora, torniamo in macchina e spiego abbiamo due possibilità o in qualche modo tiriamo giù con la telecamera altrimenti potremmo tentare di passare da dove c'è la ventola Io tirerei giù la telecamera, che è una cagata lì. Tu hai la Super Mio, sì, sembra cioè... fatta apposta. Basta che lanci qualsiasi cosa che non sia un hamburger e va bene. Ci possiamo provare. Realisticamente cioè, non credo che cercheremo di tirare giù. Io non so, però abbiamo sì. la pistola col silenziatore o solo la pistola? L'unica no, cosa, però quello che abbiamo penso io è che, aspetta, sì. loro, se c'è una telecamera, c'è qualcuno che sta guardando. L'abbiamo comprata nell'altra sessione. Potrebbe essere qualcuno la Tempura Investigation ha una pistola. Scusate, rega, non sono troppe campagne di gioco di ruolo. Giusto, chiamiamo la Tempura Investigation. Mi ricordavo anche lui per i proiettili. Beh, Salla, va di Nira o tu lascia Nari? Abbiamo due taser. Se c'è una telecamera, potrebbe esserci qualcuno dietro uno schermo che ci sta guardando. Sì. Se tiriamo giù la telecamera può essere avvertito e quindi esce dalla porta. A quel punto, ma anche se tu con un disco di ghisa, no, scassinare la porta, andare dietro dalla ventola, non ci sono telecamere ed è buio. Sì, ma ora che smonti tutto, e dipende com'è, tutto. Com'è la più che altro scelgo, facciamo un bordello a luce di metallo. Non abbiamo, cioè, ma come è fissata al muro con delle semplici viti? No, abbiamo è tipo una rientranza nel muro, è tipo come se fosse un'inferriata. Scusate, non segui l'impaggiamento, che cos'è? Ce lo puoi leggere giù? Sì, non abbiamo né spade laser né tritolo. No, però non abbiamo tipo qualcosa per scassinare o per... Abbiamo un passamontagna a testa. E questo direi che l'abbiamo indossato. Un binocolo. Beh, adesso no, che sono... Che di notte il binocolo va fortissimo, cazzo. Due dosi di antidolorifico. Beh, che c'è il lampione, cazzo dici? Sei auricolari tipo buttafuori. Vabbè. Modello butta fuori modello che fanno due spray al peperoncino. Sono andato alla telecamera. Buoni sugli hamburger. Oh, rega, tre occhiali da sole in plastica più una montatura in acciaio. No, quelli non ci sono più perché Emma si le prese via. Meglio. Ma uno neanche per arci. No, io non li voglio quelli con occhiali. Infatti, non li voglio. Due corde con rampino. Che però sul tetto non è inutile andare. Due taser e una accesoia grossa trancia catena. Ecco. Sì, ma secondo me con quella accesoia possiamo rompere la grata. Allora, ci puoi provare. Cioè, secondo me è fattibile. Non secondo è me, secondo me possiamo, se proprio non vogliamo farci vedere in assoluto, le cose che possiamo fare sono due. O proviamo a aprire questa ventola e entrare da lì. O in alternativa proviamo ad andare sul tetto e a buttare giù la telecamera dal tetto. Adesso dire una cosa, il discorso è che mentre noi siamo abbastanza sicuri che una volta tolta la telecamera all'ingresso dalla porta si possa entrare lì dentro, una volta che noi passiamo dalla ventola arriviamo in sto cazzo di stanzino dell'aria condizionata e poi non sappiamo come si accede eventualmente all'edificio di base. Aspetta, se qualcuno mi sale sulle spalle o io salgo sulle spalle di qualcuno che si è stato e con una torcia guardo tramite la grata riesco a vedere dentro. Io farei che Arci salga sulle spalle. Secondo me possiamo salire sulle spalle. Io salgo sulle spalle di Scea. Ti hanno bucato una spalla con un proiettile, Beth. Non salgo sulle tue spalle. Sali sulla spalla, non bucato. Fare un'osservazione completamente al di fuori, magari vi aiuta, magari no, magari è. In realtà, se c'è una telecamera, non è detto che ci sia uno dietro che guarda, magari è solo a fine di sicurezza. Però in questo caso, siccome c'è una missione, potrebbe essere una telecamera con qualcuno dietro. Io ve lo dico così. No, questo lo sappiamo, però tendenzialmente. Il fatto che non ci siano finestre e che il tizio di dentro, cioè, è probabile. L'alternativa che... è rubiamo una macchina, entriamo sfondando tutto e poi. L'alternativa è che uno di noi va lì, butta giù la telecamera e poi dopo andiamo tutti. Ma il buttare giù la telecamera è il problema minore, sì. In realtà. No, perché io posso prendere un oggetto qualunque. No, sì. Non è vero, una piuma no. Il problema... Cioè, la mia paura è che vuoi... il rompere la telecamera possa avvertire qualcuno. Il problema... Ma no, cazzo che avverta. Se dietro questa telecamera c'è un allarme a qualcuno che sta guardando è avvertito come se vedesse ma visto che non possiamo anche se andiamo lì apriamo secondo me anche appunto. Se scassiniamo no ma in ogni caso anche se scassiniamo la ventola una volta entrati nella ventola ripeto secondo me c'è una porta tra lo stanzino e il capannone quindi se anche lì comincia a scassinare è probabile che magari qualche antifurto ci sia l'idea era entrare nel condotto dell'aria Questa era una tua idea. Non ci sarà un codo, non era quella lì. Certo. Ma non ci passiamo neanche per sbaglio. Intanto, no, tu no. No, in generale, rega, cioè, non ci passiamo. Devi guardare con una torcia tramite la grata, intanto. Sì, sì, quello che parlo. Allora, io vado con una torcia. Siete tu e Vez. No, sono già tornati alla macchina. Ero andato alla macchina, chiedo a qualcuno di voi se mi accompagna, se invece vede, perché non posso salire sullo spalle. Accompagnarci. Sei volte, direi che sei adatto. Mi porto dietro anche le cesoie, metti che ci tira il no, io non vengo, però puoi prendere le mie spalle. Quindi sì, salgo sulle sue spalle. Io direi che Arci sale sulle spalle. Prendo scemo in spalle e lo porto verso la... No, no, no. Poi passa montagna. Allora, è gratis farlo per Arci prenderti sulle spalle, ma devi tirare per salire. Quanto pesi? Quanto pesi? No, abbiamo i rampini per arrampicare. Ecco, a un certo punto inizia anche a fare così, senza motivo. No, no, vabbè, è una prova di fisico. Porta su, tipo, aspetta, no, cosa fai? Ma perché? Arrivati alla grata. Ieri ha fatto 90 kg. Così con 90 kg. Su, mi puoi fare, puoi usarmi. Accendo la torcia e guardo tramite la grata da sulle spalle. Arci, fammi una prova di fisico. Ah, ok, scusa. Posso tirare un D8? Sì. Cioè, in realtà, con scemo potrei tirare con D20. Effettivamente, c'è uno. Sì, esatto. puoi prenderti anche più tempo anche per migliorare. Anche qui ci fermiamo. Ah, posso prendermi il tempo necessario senza problemi? Tira su D8. O devo tirarlo? Ma no, tira. Sì, lo tiro tanto. 8! Ok, tiri su scemo senza problemi. Ora che dove l'appoggio il magazzino, scemo? Arci? Scemo sul tetto. Ma io veramente, guardami giù. Scemo sta volando, verso lì. Poi okay. Accendo la torcia e vedo che cosa vedo tramite la e tiri su osservare e tiro su, niente, c'è uno con la manina da dentro che fa ciao. Esatto. Lascia fa uno e guarda il muro. Arci, non capisco bene perché questo posto 4. Okay. La ventola si sta muovendo dentro abbastanza lentamente. Ok. E quello che vedi all'interno è un condotto. E quanto è largo? Scemo, quanto è largo il condotto? Quanto è largo il condotto? Il condotto è largo come la pala ed è circa largo, fa conto così. Una persona ci passa tranquillamente. Sala così cosa vuol dire? Cos'è? Più di un metro? È circa un metro. Una persona ci passa tranquillamente, ovviamente strisciando. Una persona ci passa. Strisciando, cioè nel senso... Sì, raga, a me mette ansia quelle cose. Sì, in realtà sì, ma poi non vedo se prosegue dritto, va su, giù, destra, sinistra. E ti sembra che... prosegua dritto, però non ne sei proprio sicuro, è molto buio e c'è una cazzo di pala. Sì, ma poi la logica va avanti fino a che non entra nel magazzino e poi va su e farà il soffitto. Dovremmo assumere un hero tipo halfling. Io mi sto... Un po' scemo se aumenta il difetto. Diventa è vero. Non lo so, niente. Un po' sono tipo uno di quei cartoni che hanno le gambette così, è tutto buco. Sì, tipo Dexter. Esatto, sto diventando... Vabbè, torniamo alla macchina, ok? E dico che semplicemente dentro... Sì, una volta che andiamo alla macchina lo riappoggio e... Aspetta, la macchina non è nel raggio della telecamera. No, ridendo e scherzando sono fatte le due di notte. Ok, allora... Io direi che se volete possiamo passare dalla porta principale, perché passare tutti e cinque per un condotto è abbastanza... Io voto per il condotto. A meno che qualcuno... Allora, io dico a Katta che sei largo un metro, ed è largo un metro lì dove c'è la il bocchettone. Diciamo che dalla porta è più sicuro. Può anche essere che tu una volta arriva anche semplicemente fatto 5-6 metri in avanti, il coso possa restringersi a caso, e tu sei lì come un coglione. Oppure no. Ho capito, ma mentre la porta sei sicuro che se apri non entri in un cunicolo. Vuoi andare nel cunicolo? Apri la porta e c'è un condotto. No, l'alternativa è dividerci, ma mi sembra una follia, sinceramente. Sì. A meno che lui non dica io passo di là e voi davanti, che potrebbe essere un diverso. Ma raga, ma non sappiamo neanche se poi magari c'è una grata anche a metà condotto, cioè, capito? Può esserci un filtro. Raga, come volete, però c'è un po' il problema che se ne c'è un qualche casino del cazzo, cioè dovete uscire dal condotto. Infatti, no, io facciamo votazioni. Chi vota per il condotto e chi vota per la porta. A me frega perché sono il palo, quindi... Allora, però mi dispiace per voi se morite. Abbiamo tre possibilità: passare dalla grata, passare dalla porta, dividerci. Pica. Votiamo. Chi vota per passare dalla grata? Il lucernaio. A parte Katta. No, beh, io mi astengo, ovviamente. Avrai un parere, vabbè, però, al riguardo. Giulio, ci asteniamo. Vabbè, siete voi tre. Tu, beh, avrai un parere, beh, scusami. Allora, io avevo detto, secondo, allora, secondo me, se c'è qualcuno dentro, ci sente comunque. Questo è ovvio. Per questo se, se la telecamera è, effettivamente potrebbe non essere vista. Pacco però Amazon. Potrebbe esserci una telecamera dentro, quindi quello che stiamo facendo magari è inutile. Bene, ragazzi, ho capito. Però. Quindi il problema è se c'è uno dentro, quindi il pericolo è dentro comunque, e alla fine, cioè, siamo fottuti. Io farei dalla porta centrale, tirare giù la telecamera così per... Cioè, va uno, tira, va, va scemo, aspetta, tira giù la telecamera. Più semplicemente... Aspetta, una volta tirata giù, arriviamo, la tiriamo giù sta porta, voi entrate e dopodiché io e Giulio facciamo i pali e ci sentiamo. Se arriva qualcuno, uscite. Il cavo che dà alimentazione alla telecamera, lo vediamo dove va. Più banalmente entrerà sul muro subito. Sì. Ok, grazie. Dai, raga, entrando alla porta. Sono fatti in modo che so, vabbè, però sai, a parte che scusami, se poi non ci sono delle luci dentro, magari non è anche detto che si inserito queste telecamere. Ah, ci sono le telecamere. Non abbiamo capito in nessun modo se dentro c'è questo no, perché però abbiamo le torce. Vabbè, le telecamere non spegnessimo il lampione, la telecamera. Sì, però c'è cioè... coso. Sì, ma non avremo neanche no. Noi la, se la porta. Certo, ci vuole sempre un po' di luce in verità. Torcio. Sì. È vero, un'altra possibilità è fare in modo che si spenga il lampione, ma è un lampione piuttosto in alto, ci vai tu su. Scemo. Super mira. Sì. Io con un 8 ti posso lanciare contro il lampione, ma non ho super mira. Posso volendo provare. Potrebbe richiedere qualche tentativo. Il lampione che illumina l'ingresso, diciamo, è il classico lampione da strada altissimo. Esatto. Altezza più o meno. Vuoi abbattere il lampione? 4 metri. Ho la sensazione che se tento di tirargli una cosa riesco a rompere la lampadina. Beh, sai, è un superpotere, puoi provarci. Volete fare questo? Salo, scusa un attimo, però prima che rimaniamo io sono tutti, contrario. Com'è la luna? Com'è la luna? C'è la luna piena che fa una gran luce o no? Rega, è Bologna, non c'è tanta luna. Vabbè. Che se poi il comune deve ripararlo sto lampione. Con cosa lo ripara? Con i soldi delle tasse nostre, non nostre esattamente. Anzi, dici io sì. Sta ancora giocando il PG di Alba di Tutto. Dai, rega, per me è uguale. Io farei la telecamera. È buona. Beh, in verità su questo lato... No, perché luce capitalista. Però se no, la telecamera fosse... A parte posso dire una cosa, luce capitalista. Se noi però spacchiamo il lampione tutti al buio e magari quello lo nota tutto le candele. Porca luce capitalista da dal vicino. No, perché poi voi. Sì, ma se l'azione ha capito. Va bene, shotta la telecamera. Va bene, siamo giunti alla conclusione di shottare la telecamera. E ci pensa. E usavamo solo candele, esatto. Di patate. E... nel nostro equipaggiamento, no, però non c'è. C'è rumore d'orecchio. Sì, non aveva preso le cose da lancio. No, alla fine no. Non ci hanno dato niente. Non ci hanno dato niente. No, in realtà ci ho visto qualche la sua macchina, però me lo consigliava il Ligno. Cioè, che assolutamente. Parts and Recreation. Chiave. Vai. Chiave. Sì, no, non ce l'ho in quella nuova perché non c'è la cosa di scorta. Ah, se cosa potrei dargli le mie chiavi di casa? Quelle. Vez, intanto che loro parlano, ti arriva un audio. Un audio, dimmi l'audio. E senti. volevo dirti che mi dispiace ancora molto per essermene andato all'improvviso. Però sai, dovevo trombare, quindi. Poi ora io tornerei se avete bisogno di grosso. E comunque in questi giorni in effetti sono un po' pieni, quindi mare. Se ho tempo per dormire non sarebbe neanche troppo male. Una chiave che è lunga così. Senti quelle da fine. Uno spettacolo la prossima settimana. La chiave così? No. Vabbè dai, dimmi tu se hai bisogno, anche se in realtà alla fine ho l'agenda un po' piena e domani non sono molto libero. Sì, Vabbè, spero vada tutto bene, ciao. Oh rega, Emma mi ha mandato un audio, dice che se vuole può tornare a aiutarci. Grazie. E parlarci nelle teste? No, sì, non lo so. In quanto bisogno. Tempo è qua però? Non lo so, Scio, secondo me è una mezz'ora. Domani. Se ti assicura che è qui molto in fretta potrebbe anche venire, però deve essere qui subito, sono già le due. Cioè abbiamo bisogno che ci porti qualcosa? No, non ce l'ha però una spolmoletta spray tipo. In effetti, però... Non abbiamo lo spray per arancino. No, ma te. Beh, spray, sporca. Boh, non so, come lo, gli dico di venire o no? Sì, se ti assicura che è qui in fretta lo aspettiamo, massimo mezz'oretta no, però. Poi nella mia macchina ci sono due cassette con cui porto i giornali. Tu sai che, ma è facile che ti risponda dopo che mezz'ora. Se le rompo. Vabbè, no. Senti, io appena fatto un audio. Lo chiamo. E poi ho un generatore portatile. A parte che si veniva è un'altra macchina che arriva, altro bordello. Vabbè, gli dici di tornarsi sulla cioè, principale. E poi Ema fa un bordello allucinante. Ho un generatore portatile. Ciao, di quelli. Stai? Ciao Ema, e noi siamo qua che siamo il vetrino di spaccare. Luogo, pensavamo di entrazione. Siamo una di quelle telecamerine grandissime. È un super quanto forte. Esatto, è un super potere. Ah, beh. Guarda, io adesso... Bella precisione. Non lo so. Guarda, riguardo, rimetto un po' a posto qua e prendo la macchina, tra un 40 minuti dovrei arrivare. E sento gli altri. Devo arrivare tra 40 minuti. No, un caffè? Sai che, ma per 40 minuti è un'ora. Ma vabbè, ultimamente è abbastanza puntuale invece. Cioè 40 minuti sono solo 50. Esatto. Cioè, considerando il superpotere di Ema e i suoi nerf naturali, per me non è fondamentale. Vabbè, Ema, ascolta, vabbè, a sto giro... Ah, scusa, gli puoi lanciare una bomboletta. Poi magari se abbiamo qualche problema ti chiamo. Esatto, fai così. Per dipende. Ok, va bene, rega, dai, non fate cazzate, ci sentiamo. Vabbè, tu comunque sai qua, adesso sai che siamo qua, intanto ti mando la posizione. Cioè, digli magari di tenere il cellulare. Se qualche problema, tu sai che ci siamo stati qua. Va bene. Okay, devi tenere il cellulare magari. Una gioia. Speriamo di sentirci. No, potrei usare grazie, okay. Non fare stronzate. Ciao. Magari devi tenere il cellulare reperibile. Sì, ascolta la sala. Ti mando la posizione tramite. No, È troppo silenzioso. Boscia, non so. Ti mando la posizione tramite WhatsApp. Ciao, tu prova a fare un tiro. No, faccio un'idea migliore. Con rampino, l'aggancio e la strappo. Così sono sicuro di romperla, di staccarla. Ma se è sferica non c'è l'aggancio. Ma è quella sferica? Sì. Oh. Ah, Dioca. Allora prendo la chiave di casa di Arci e gliela tiro contro. Sì, lo so com'è la tua chiave. No, cazzo, perché è un sasso. Sì, forse Vezza ha detto la cosa più intelligente di tutte. Cioè, nel senso, non pensavo se così rincoglioniti neanche. Allora, cerchiamo. Beh, raga, un sasso deve essere bello grosso, però. Cioè, vabbè, sì, per strada è difficile trovarli, magari. Però se sono delle sasso. Cazzo di siepi, ci sarà un cazzo di c'è sasso. Un sasso o qualcosa del genere. Cerchiamo. Cerco un sasso. Se no... Ok, prendo il sasso sì, e il Star Wars di Giulio. Ma Salla è il sasso. Sì, che c'era un sasso di Silhouette 3. Nulla. C'era un sasso di Silhouette 3. No, sì, ma solo perché serviva a uccidere. Salla è il classico sasso voglio. Che se ci metti il cursore del mouse puoi cliccare col destro e usarlo o no? Sì. Vai, allora. Allora è l'item della quest. Ok, usare. Ragazzi, allora. Importante, mandiamo Sceo, ma Sceo fa il suo lavoro, quando è a posto ci fa il segno e arriviamo noi a provare a sistemare sta porta. Ok, allora... Scusate, ma chi ha le torce più che altro? No. Che abbiamo usato? Ci portiamo le torce, la cesoia, ognuno ha il suo auricolare, non nessuna torcia. Ognuno ha il suo passamontagna, tranne il cellulare che manca. Massimo. Ma le torce abbiamo, scusate. Non abbiamo torce. Vabbè, raga, abbiamo queste qua. Abbiamo il cazzo di cellulare, sì, fanculo. Ma io ho detto... Prendiamo il cellulare di Giulio. Se non abbiamo... No, vabbè, non ce l'abbiamo, abbiamo il cazzo. Come non avete torce? Vabbè, abbiamo i cellulari. Io non ho segnato. L'applicazione torce, è uguale. Io me le ricordavo, sincero, dall'equipaggiamento. Infatti prima ho detto... Ma noi l'abbiamo chieste, sicuramente. Vabbè, fa lo stesso. Sì, l'abbiamo anche il lanciafiamme. Auricolare, ognuno di noi auricolare, abbiamo già provato. Ah, sì, non avete torce. Va bene, auricolare, ognuno di noi auricolare. Ah, ok, ognuno di noi auricolare. Sì. Ognuno di noi al passamontagna, tranne Giulio che è messo in macchina. Vabbè, pronto. Ce l'ho anche un... Io ho un taser. Vuoi camuffare la targa? I taser... Ma non sono a portata di telecamera. Non lo so chi li vuole di voi, prendeteli. Io ne prendo uno. Li prendo dai cesoi. Allora, bravo. Piuttosto. Sì, sì, da dare in testa a qualcuno. Sì. Castrarlo. Sì. O castrarlo. Sì, se taser, dai in testa dipende, se tu fai il palo, allora l'altro lo prendo io. Io nel senso che arrivavo lì e poi quello che non serviva lo riportavo indietro la macchina una volta aperta la porta. Okay. Sì, l'accessorio lo usavo anche come... Non si sa mai che serve. Va bene, il taser... Sì, sì, fai uno tu e uno lui, tu hai la mira. Va bene, esatto. Abbiamo qualche altro di utile? Abbiamo la mazza da baseball? No. Beh, in teoria tu l'avevi a casa tua, potresti averla presa. Vabbè, ma tanto io qui dopo torno. Vabbè, però l'hai presa? Abbiamo uno spray peperoncino. Ah, sì, quanti? Due. E che mi confondo con quella cazzo di agenzia che volevamo mettere lo spray. Lo spray chi vuole di voi? Abbiamo anche tre coltelli. No, hai preso accessori. Aspetta, uno spray meglio se ce l'abbiamo uno comunque noi. Uno lo prendo io lo spray e uno lo tiene in macchina Giulio. Uno... Io ho un generale. No, io ho anche un generale. Giusto. Se quindi io mi tengo... tu sei in macchina. Gli hamburger sono finiti, quindi uno portiamo via noi. Io adesso vengo con voi, poi torno indietro. Cioè, perché vediamo se la porta posso darvi una mano. O quattro. Io ho il taser, poi cos'altro tengo? Rampini, ah, rampini li prendiamo, sì. Non so che cosa c'è all'interno. L'edificio è alto. Uno lo prendo io che stava a venire. Poi ripeto, io ho un generatore. Vabbè, non è che se uno è una cosa comunque poi non può passarla agli altri. No, non so, ma io ho detto così a vabbè, caso. Lo sappiamo. Lui ha un generatore portatile in macchina, te lo vai. Diciamo, magari possiamo. Allora, per la telecamera cerco di mettermi. No, anche un fucile a canne mozze, che si vergogna a dirlo quando davanti alla telecamera. Il generatore è vero, l'ho comprato in Germania quando mi sono scaricata la macchina. Una volta ce l'avessi potuto avere. Perché i cavetti non li avevano, solo generatore portatile. Beh, il fucile glielo ho regalato io per i suoi 6 anni. Mi metto vabbè, 40, il più laterale possibile anche all'edificio. Anche da pompo. Non capisci cosa sto dicendo. Cioè, sul lato... Non ha, non so perché per attaccarlo. Va bene. Al passamontagna. Sì, sul muro praticamente. Al passamontagna, esatto. 43. E tiro. Non usi punti psiche. Ora adesso vediamo quanto tempo ci mette certo. Sceo. Tu... Sceo, non usi punti psiche? No, sforza no, ce la fa. 5. Hai mancato di poco la telecamera. Esatto, dovrei comprarmi anche beh, la telecamera. Tu non tornerai mai più in casa. E il sasso dov'è? Il sasso, vabbè, ok, ne puoi trovare un altro. Non c'è un problema. Sempre col tasto destro del mouse? Sì, sì. Dici che ne ho tre io già di mio. Vai, tira un altro. Ah, perché non siamo venuti dallo stesso cervello. Stavolta faccio 7. 7. Ok, colpisci la telecamera, tira i danni. Non è una telecamera d'acciaio. 1. Un danno. 10 saranno. Un danno. E purtroppo la telecamera si incrina un po' il vetro della cupoletta, ma sembra che non si spezzi. Comunque, raga, visto che Sceo sta adesso, senti, no, è per dire, visto che la telecamera è a 2 metri e comunque chi la distrugge viene visto col passamontagna. Aspetta. La difficoltà è più alta perché Sceo si è messo in modo di non essere visto. Se era vicina, sì. Ah, ok. Però dico, se uno va lì col passamontagna con le cesoie tira una tranciata. Lo puoi fare, però sei visto. No, beh, vabbè, però se Sceo tirasse da più vicino avrebbe difficoltà minore. Ah, è perché ti sei messo per non essere visto. Ah, beh, allora, ok, va bene. Solo che se lo faccio ancora, io non ero il play, ma so che... Beh, tu, noi aspettiamo il tuo segnale. No, però Salla, uno se ne accorge comunque quando gli cala la psiche. Noi vediamo tipo dei sassi che svolano. Sì. Quindi non è Sceo. Comunque è role playing anche se tu decidi di non farlo perché tipo accorge che stai male. No, ma Sceo dice per punto fatica, secondo me. Sì. Sì. Vabbè, al massimo dico, rega, sono stato. Ma puoi aspettare un round, a livello. Puoi aspettare un po'. Riprendere un po'. Dipende. Anche perché cioè, comunque un... Se io mi sento stanco... Hai lanciato due sassi, cazzo. Cioè, esatto, dipende dai miei sintomi. Ha lanciato due sassi, però ha usato il suo potere. Sì, è vero, scusami. Un po' si affatica. Che Giulio non è abituato a che i compagni usino i poteri. Torno un attimo alla macchina. Però dico... se deve trovare un altro sasso, forse perde un... Sì, va bene. Può tirare. Mi avvicino alla macchina, dico, lei che intanto che c'è un altro sasso, riprendo un vabbè, comunque, scusa, quanti punti fatica e hai? E sei venuto qui per dirci questo? Beh, vabbè, fino a 6-7 punti fatica, non è che sei faticato. Vabbè, se non siete a chilometri, sarete a 50 metri da me. Tira, ho toccato di telecamera, porco di... Ritrovo il sasso, mi rilasso un attimo quei pochi minuti e rifaccio. Questa volta faccio 7, quindi colpisco. Comunque, raga, la prossima volta portiamo dei dischi di ghisa da un chilo. Con il D4 faccio 4. Oh. Ok, si infrange, la telecamera si distrugge. Vai, partiamo. Comincia a suonare un allarme nucleare di tutto il quartiere. Io scappo. E spariamo il taser su Sceo. Okay. Faccio un segno a loro e mi avvicino alla porta. Che segno ci fai? Non era quello concordato, è un nemico. Prende le cesoie e gli stacco la testa. Tiro un sasso sul parabrezza dell'auto. Il verde è morto. Siede l'auto. Sceo! Ok, vabbè, immagino che lo vedano anche loro, in realtà, che la telecamera si rompe, quindi faccio segno di avvicinarsi. Seconda parte del piano. Devi fare il verso del... Arriviamo alla porta. Tutti grande Giulio che è in macchina. Esatto. Ok. Ci portiamo via la telecamera, la rega. La prima cosa che faccio prima di toccare la porta, guardo se da sotto la porta intravedo la luce passare. Ah, andiamo alla luce. Ok, da dentro, rega, esce della luce. Vedi la luce. Capisci che non l'avevi vista prima perché è molto bassa e la luce del lampione la copre. Ok, c'è una luce bassa, però... Salla vuole che spacchiamo il lampione, palese. Fermi un attimo. Cosa vuol dire? Vi spiego perché non l'avete notato. Sì, sto scherzando. Un attimo. Se non ci fosse nessuno, la luce sarebbe rotta. Oppure serve per far vedere le telecamere interne. Prendiamo altri sassi. Quindi, se è una luce molto bassa, sai. Io i sassi che ho usato finora me li metto in tasca. Ok. Beh, per dire. Che i dischi di mezzo chilo sono troppo funzionali. Io voglio fare una prova per ascoltare. Me l'avevo detto. Sì. Per dire, in alcune zone del mio dipartimento, le luci sono sempre accese. Sì, anche se non c'è nessuno, anche in molte banche. C'è motivo. Due. È uno degli edifici più inefficienti. È sicuro. Cioè, i rumori della strada coprono i rumori all'interno. Ok, e la porta sala. La porta ovviamente è chiusa. Non lo so, non hai provato a tirare giù. Ah, no. Io provo ad aprirla. La porta è chiusa. Esatto. La chiudo e la faccio saltare. Aspetta, ho capito. Amici. Lo spiffero sotto è spesso, cioè è largo, non ci passa niente. No, è abbastanza sottile. Noi non abbiamo batteri di scasso. Foglie di carta. Più che foglie di carta pensavano a qualunque cosa metallica per il riflesso. Facciamo. Perché è una porta esterna, ma se noto che non ci passa niente, non dovrebbe passarci in realtà. Avete qualcosa? Ah no, se tu riesci a spaccare, non abbiamo una sega. Un cervello. No, non abbiamo una sega. Però se tu riesci a spaccare la porta, non ci passa un cellulare. Tipo a tagliare la famiglia. Passa un cellulare. Riesci magari a sbloccare il coso da dopo. Però uno smartphone è molto sottile. Cazzo, c'è non abbastanza. Non abbiamo piede di porta. Magari l'iPhone 10 che uscirà. Abbiamo gli attrezzi da scas. No. Sì, ma in ogni caso è perché... Facciamo aprirla. Se alla fine entriamo dalla grata io rido un'ora, te lo giuro. Io rido tantissimo. Ma se ti blocchi nella grata, io spero di essere dietro l'uccello di Giulio per darti fuoco da lo stir dentro la grata. No. Avete una lama di metallo, qualcosa di sottile? La porta è sotto la porta, non lo so. Allora, la porta è una di quelle porte di metallo che ci sono nei, diciamo, robot industriali. Quindi fondamentalmente ha una maniglia sola e c'ha tipo il coso sovrapposto e due ante. Andiamo con una carta di credito. Ah, okay. Quelle che dentro hanno l'antipanico. Tipo quelle da campo sportivo anche. Esatto. Sì. Provo con una tessera di plastica a farla passare dentro. No, non hai capito. Salla. Quindi era quella classica maniglia di plastica che si attacca direttamente all'alluminio, no? Esatto, sì. Quelle lì, secondo me, se tu stranci di netto la maniglia di plastica, poi dentro, in qualche modo, puoi cercare di provare ad aprirla. Mentre con la cisoia potrei farlo. No, con la cisoia spacchi proprio di netto la cosa. Riesci? Ma anche con scano. Sì, in realtà anche con qualsiasi cosa, anche con un martello puoi fare. A togliere la maniglia. Il discorso è poi, una volta, provare con qualcosa a smanettare dietro sperando di aprirla. Vabbè, la cosa lì la puoi fare tu, distruggere. Sì, quello sì, ma è dopo bisogna provare. O in realtà ci puoi mettere anche dentro la cisoia e cominci a smanettare per provare a fare del bordello. Non lo so, è complicato. Che altri bisogna avere sono altre opzioni. Non so. No, però aspetta, questo vuol dire che comunque questa porta qui lato dell'edificio può essere aperta dall'esterno senza bisogno. Sì, ci sarà una chiave. Okay. Ci sarà quello che abbiamo fatto non è inutile. Immagino ci sia una serratura, sì. Sì, che è che è quella dentro la maniglia, già nella maniglia, no? Salla, posso fare una cosa. Sono quelle porte lì, secondo me si può provare. Attenzione, una cosa molto astrusa. Nel senso che volendo mi posso modificare le unghie in modo da allungarle e sottigliarle. Prenderla una forcina. Esatto, e provare con le unghie a fare da... Ti chiedo una cosa, tu con una forcina sapresti scassinare una serratura? Io ho visto dei tutorial su internet. È vero. No, no, va bene, va bene, va bene. Puoi provare. Lui è la lobby. È la lobby. Usa la lobby. Chi vuole che catta? Perché sono spesso. Più che altro catta. È da tutti i giochi di fuoco. Catta più che altro al 99% si spacca l'unghia. Me le modifico. In teoria, però, può modificarla, esatto. Sì. Allora, no. Questa cosa non la puoi fare prendendo tempo perché il tuo potere non ha lunghezza. Però in teoria devi tirare secco. Devo fare una prova di controllo. Lui, ma per me la cosa fare una prova di sarebbe facilitato, mente o riflessi o qualcosa tipo scassinare la serratura. Secondo me lui non è necessario che sappia i tutorial, perché lui potrebbe fare l'unghia della dimensione dell'entrata e diventa una chiave di fatto. Non so, magari sì, quello è troppo avanzato. Come una chiave, non è così avanzato. Non è così avanzato. No. Cioè, deve fare una strada di precisione per fare una roba del genere, capito? Che ne so, vedevo il buco. Deve sapere com'è fatta la chiave dentro. Esatto, esatto, che tu vedi solamente il buco della serratura, ma dentro poi cambierà tutti i dentini. No, ma anche se la vedesse così, non credo che a questo livello potrebbe avere una forcina che la tenga un po' in tensione. E poi con un'altra devi far salire tutti i pernini che ci sono. Ammesso che sia una serratura così. Ammesso che sia una serratura così. Sì. No, beh, raga, comunque no, cioè, non possiamo disfarlo, non possiamo parlare, cioè, bisogna provare tutte le varie opzioni e vedere quale funziona. Sto cercando di sapere che prova devo fare. Io sono in macchina, tanto. Ma niente, devi fare una prova di... Puoi scegliere tu o mente o riflessi. Beh, è sempre un D6 comunque. Quello è il tuo dado, Kat? Tu stai giocando a Pokémon? Sì, da quando è... Il suo Whisk. Qualcuno adesso posso anche finire. Tu vai Pokémon, ma in Giappone per cercare più Pokémon? Sì, in verità sì. Falso! Ho visto un Kangaskhan, però. Sì, anch'io. Va bene, Salla, lo provo. Posso decidere di usare la psiche dopo aver visto il risultato? Te lo devo dire prima. Assolutamente no. Dello prima. No, devi finirlo prima. È un... Però io non ho visto che hai tirato, quindi... Non ho ancora tirato, no, scorizzatello. Va bene, lo uso. Vai, cut. 6! 3 più 4, 7. Ne sono quanto avessi? L'avevo usata per qualcosa. Però questo è il cazzo di oggi. Quindi anche tu bellissimo. Ok, mi dovresti fare un tiro di... Scusate, ma canta con lui. Condizioni. Guarda, è lo stesso tipo. Sì. No, che è questo? Perché io ricordavo ce l'avessi prima. Questo me lo ricordavo. Non lo ricordo. Sì, esatto. 3 più? 3 più 4 è fatto. Sì. Questo qua è un problema anche da... scusate, ho un buco. Qual era il difetto di Kat? Qua. Il sangue blu, intendi? Il sangue verde? Il sangue blu perché fa saltare tutte le connessioni wifi. No, il mio internet! Cioè, quando l'hai visto? Io ho visto le partite di NBA. L'ho rivisto. Ah, di recente, quindi questo è a settembre. No, sì. Fai un tiro di musica. Ah, Kata, cosa potrei guardare oggi su YouTube? Non mi ricordo. Kata, tira psiche. Tiro psiche, quindi... Di 6 più la psiche. Psiche totale o la psiche attuale? È quella che hai. Quindi 3. Sì, non mi sai più 3. 2. Più 3? 5. 5. Comincia a urlare, sbatte la testa contro la maniglia. No, allora, apri la porta. Cioè, senti un click. Ma è la tua unghia. A questo punto, Katta, ti chiedi, perché sei qui? Oh... Un'emissione. No, no, nel senso che non te lo ricordi. È confuso, amnesia. No, è proprio amnesia. È il suo difetto. No, credo sia per la psiche. Non è per la psiche, è per il perché è divino. Okay. Ah, okay. È di birra. Eh sì, è il suo difetto. È il suo difetto. Vabbè. Ma quindi, vabbè. Quindi ti rivolgi a noi chiedendoci cosa ti guardo vediamo. Intorno e riconosco delle facce. No, perché no, tu riconosci tu. Che cazzo sto facendo adesso? Oh no, lo strangolatore! Non ti ricordi però. Tu ti ricordi che era il Mac che mangiavi e poi però non ti ricordi nient'altro. Ah, quindi si ricorda comunque della missione. Sì, sì, sì. Raga, andiamo al magazzino. Perché mi guardate così? Siamo già al magazzino. Come siamo arrivati? Che menù hai preso? Cazzo succede, raga? Porca puttana. Che menù hai preso? Hai messo lo spray al peperoncino nel panino. Il solito, il crispy Mac bacon. Evidentemente il bacon ti fa male. No, non potrei vivere. Cioè, cos'è l'ultima cosa che ti ricordi? Che mangiavamo panini, però questo mangiamo sempre panini. Quindi... Non in macchina, no, non in macchina. Eravamo al Mac. Ok, questo è stato ormai 6-7 ore fa. Penso di aver bisogno di sdraiarmi in macchina. Ok, magari raggiungi Vezza e Giulio in macchina. No, io sono lì. No, ah, scusa, raggiungi. Ma che mi l'ho presa! Cioè, beh, farei un attimo un cambio tattico momentaneo per vedere se lui si ridecca. Cioè, nel senso che Giulio viene. O tu. No, meglio che stia con. Che lui vada a fare un attimo il palo finché non si riprende. No, non voglio che. Cioè, non è in condizione. Ma ha aperto la porta o no? Sì. Si è dimenticato cosa è successo in un frangente di tempo. Un attimo sfasato. Ti fidi, la lasciamo da solo. No, per lui lo dico. No, a stare in macchina con Giulio. Sì. Va bene, raga. Ah, cambio con lui. Quella è l'unica cosa che posso fare di utile. Accompagno. Cazzo la macchina. Sala, intanto provo ad aprire la porta. Aspettami. No, ma non è che faccio. Devo solo vedere se si stacca un attimo. Sì, però aspetta. Anche perché lui non si ricorda della macchina. Esatto, lo porto alla macchina. E poi ho bisogno di un passamontagna. Ce n'è una testa. Sì, mi serve un altro passamontagna. Per l'uomo nudo e ti do il mio. Un altro ce l'avete, che è quello di Ema. Ah, è vero, quello di Ema. Ah, fanculo, datemi quello di Ema. Però aspetta. Aspetta, ci ho sputato un po' dentro. Vabbè, non c'è più la telecamera. Immaginati uno nudo col passamontagna. Sembra cosa, Salla, tipo Christian Bale, American Psycho. Cazzo, quello è il pezzo. Lo so, hai una coperta in macchina. Non è per il freddo. Però è ferito il tuo clone. Vede Bez nudo. Sì. Lo manda dentro. Nuovo sì. Brazzers. Dai, tanto Bez nudo col basso contatto. No, sto pensando. Raga, è indegno. Diamo anche le cesoi. No, sto pensando. Una volta tenevo sempre lo striscione della birra che abbiamo fregato a San Benedetto. Ma adesso no, sto pensando. Magari io potrei avere una feltina per la sera. Jason. No, sì. Vabbè, c'ho una feltina. Poi avrei bisogno anche di un gatto per ritirare al banco. Vabbè, non c'è, ho la mia feltina leggera. Io il massimo che posso avere posso mettere sul vetro, ma la mia feltina leggera, considerando che comunque l'avrei fatto di notte, senza stato sicuramente ho la mia feltina leggera. Quindi quella ce l'ho. Vabbè, sì, posto. Però il pacco rimane scoperto. Sì, no, mi vengano a comprare tutti i pacchi delle persone e allora va bene. Sì, questi sono i testicoli di Andrea Giacomo. No, c'è un problema più grave in realtà. Sì. Allora... Va bene. Scusa, Giulio, quando abbiamo lasciato Eva, ovviamente le scarpe... In teoria ti puoi mettere il passamontagna, però qui riparmati... Il mio coso dura 30 secondi, il mio clone. Ma riga, ma non c'è la telecamera? Chi sono 6 secondi per 6. Va bene. Anche se sono 6 di... Va bene. Tu non voglia spendere dei PX per aumentare... No. Allora, ok. Mi tolgo un attimo le scarpe, mi tolgo i calzini e mi metto le scarpe. Quindi ho i calzini in mano. In realtà, Vez, potresti spendere dei PX, mi sa, per aumentare anche il dado controllo. Va bene, adesso lo faremo un'altra volta. Se vuoi puoi farlo. Cos'è? Qual è il problema? Allora, mi tolgo il felpino e ho i miei calzini in mano, vado lì davanti dove sono loro e provo a sdoppiarmi. Ok, ti sdoppi. E ho anche il passamontagna di nudo. Ok, va bene. Pezzo nudo. Gli dico di mettersi il passamontagna, i calzini e la felpina. Okay. E ora Ora è nudo coi calzini sulla montagna. È un'immagine capriccia, va bene. Ti prego, Vez, dagli anche le cesoie. Anche la felpina. Oh, la felpina. Sì, lo so, ma il pacco al vento lo stesso. È un po' bassa. Vabbè, vabbè, dai, c'è la felpina, vabbè, che un po' li copre. Per piacere, entra un attimo, guarda com'è la stanza e poi torna fuori a dirci com'è. Ok, devi fare un tiro controllo, però. Lo so. Come, adesso prende le cesoie? Mi ammazzano tutti. Due. Scusami, non mi dai nient'altro per vestirmi? No, non ho niente. Potresti. Io non posso entrare così, dai, già mi vergogno. Ma posso riprovare il controllo? Ai pantaloni? No. In teoria sì, gli dai un altro ordine e puoi riprovare il controllo. Attimo, tanto rimane. E... Vabbè, però se lui... Vabbè, tanto comincia solo a dura comunque da 6 secondi, con la testa. Sì, ma tanto lontano. Ok, tira. Cosa fai, Vez? Uno. E vabbè, facciamo che... Scusa, siamo uguali io e te. Sbircia tu con la testa. Vez, se vuoi ti do i miei pantaloni. Vabbè, riproviamo. Lo annullo. Mi ritorna la memoria. Ok. Poi riprendo la mia roba. Okay. E mi ridoppio. Un loop infinito. Ehi, hey, Mr. Mysix, look at me. Avevo regga, funziona così. Quindi? Ho perso i calzini. Sì. Quindi mi risdoppio, gli ridico di rimettersi quella roba. E fai un tiro. E tiri di controllo. Già per dirgli di rimettersi le cose? No, per dirgli di entrare. Ah, ok, poi sì, gli dico di entrare. Uno. Vabbè, dai, si è fatta una certa, io vado a dormire. Ci vediamo dopo. Va bene, annullo, mi raccolgo, risdoppio. Perdi un punto fatica. Va bene. Vabbè, puoi fare all'infinito. Rega, che cazzo devo fare? Nel senso, vuoi tirare così il mio potere? Vabbè, ma Sara, si può fare all'infinito, scusami, per la legge delle probabilità, e questo è il 6. Dopo 18 tentativi sviene, di fatto. Okay. Okay. Okay. Dov'è? Qua. Vabbè, va bene. Dai. Quanti ne hai persi? No, uno, per ora è il primo che perde. Ah, ok, vabbè, ci sta. Altri 15. Rifaccio, ridò i vestiti e gli dico di entrare a guardare. Tiro? Sì. 5. Va bene. Torno a letto. Come? Però voglio anche le cesoie. Allora entro, eh. Apre. Sì, entra, torna. Quindi apre entra. E... Entra. Ah, si apre la porta. Sì, non lo vedremo mai più. Chiude la porta dietro di lui? No. È proprio Vez. Non lo vedremo mai più. Vez, tira a osservare. Di 6 sempre, no? Sì, per me. 5. Ok. Vedi che dopo neanche un secondo lui rientra. Sì. Cioè lui riesce. E ho visto un altro tizio dentro. Non mi ha visto però. Ok, grazie per il tuo supporto. Lo spengo e ripiglio la mia roba e dico la vedo. C'è un tizio dentro. Lo so. Ma potevi chiedergli prima di spegnerlo, però come era qui. Ma ha detto tutte le informazioni, no? Ha detto che ha visto un tizio, un altro tizio dentro. Poi tu l'hai fatto. Probabilmente lega una specie di, come diceva. No, scusa, io ho detto di dirmi tutto. Mi è uscito e ha detto c'è un altro tizio dentro, e tu hai detto ok, lo faccio scomparire. Ho capito, ma se non mi dice tutto, vabbè, scusate. Vabbè comunque. Cioè, ho visto solo che c'è un altro tizio. Vabbè, ragazzi, in ogni caso, probabilmente è il guardiano notturno che sta facendo i suoi giretti lì con la torcina. Oppure no, però. Si è fatto vedere, però secondo me siamo già nei cazzi qua. No, se quindi o proviamo, entriamo e. No, più che altro l'ha sicuramente sentito, qua. Secondo me, che qualcuno ha aperto e chiuso la porta. Cioè, non è... sì, Salla, allora io dico così, raga, visto che magari c'è la remota possibilità che abbia sentito aprire e chiudersi la porta, magari viene verso la porta. Quindi no, stiamo un attimo lì in attesa, vediamo se sentiamo con l'orecchio se qualcuno sta avvicinando la porta. Posso fare questa prova? Sì. Cosa devo tirare? L'orecchio cos'è? Mente? Riflessi? O mente o riflessi? Vabbè, tanto è uguale, un di 6. Non sempre senti perfettamente. 4. E non senti nessuno che si avvicina alla porta. E non sento nessun rumore. No. Vez? Vabbè, io vado a richiamare Kat. Vez è lì sotto al tavolo che si è sdoppiato. E stiamo giocando a Stone Face. Ma la memoria mi torna. Comincio a ricordare. No, no. Beh, comunque... raccontare tutto. Vabbè, vado torno da Kat, gli spiego quello che ho visto, gli dico di raggiungere gli altri. Ah, ok, grazie. Ti diciamo anche che hai usato tu le tue unghie per aprire tutto. Wow, sono troppo finito. Ma sono finito. C'è un buco spazio temporale qui sotto. È Yak allora. Pausa. Non c'è, no, non è grave, te lo faccio io, tanto non serve. Non c'è, so. Hai cambiato un dado. Ma che dado? Dado da 20. È là. Ho una possibilità succente che sta cambiando di vita. Secondo te sotto la sedia che io ho guardato per 5 minuti? Per questo che colore era? Dimmi blu e non disco. Ah no, dai, almeno è bianco il colore che si vede. Ma sarà tipo lì da scotonizzare? Non so. Che dado è? Da 6? Un di 20. Un di 20 in bianco. Dico, sicuro che ti sei caduto, ragazzi? Beh, non l'avevo visto. Vabbè, giochiamo. Non è che ti è finito in una delle tasche della felpa e il dado ci sta trovando. Non mi esce. No, l'ho proprio sentito cadere. Non l'ho lanciato sulla telecamera. Ma che ti fai così? No, ma sono proprio sulla Vabbè, raga, giochiamo, dai. Vabbè, io dico che non sento niente, mettendo l'orecchio contro il muro, contro la porta. Se qualcuno vuole darmi una conferma di quello della mia idea. Cioè? Cioè io metto così e dico. Ah, la tua idea è così. Mi sembra che non stia arrivando. Vabbè, secondo voi? La stessa cosa sull'altanta della porta, contemporaneamente a lui. Comunque lo dico, ho tirato 4, rega. Io ho tirato 5. E no, non senti, cioè ti sembra che nessuno si stia avvicinando alla porta in questo momento. Pare che nessuno si stia avvicinando alla porta. Ora dobbiamo solo pensare a come agire. In realtà, cioè... Ah, c'è da fare. Non c'è. Ma che è strano. Sì. Cioè, è abbastanza strano. Non è che sto coglione ha visto un manichino. Magari sì. Perché comunque, cioè, è un Bez, non è che è un James. Volete che riprovi? Volete che riprovi? Ma io sono alla cosa. Vabbè, io Art dico, dai, intanto torniamo un attimo alla macchina e facciamo un momento locale con gli altri, raccontiamo a Giulio. E io non so se Beth se la sente, io un altro tentativo lo farei, però stavolta chiedi di chi è il tizio, chi c'è, di dare un'occhiata, anzi abbiamo una torcia noi, no? Ma se no, mandiamo... abbiamo il cellulare con la torcia, sì. Possiamo dire al tuo amichetto, al tuo nuovo Beth, ma c'è la luce comunque, sì, c'è un po' di luce, però magari non è abbastanza per distinguere un manichino da un ma uomo. Se lo mandiamo, sì, sì. Se invece tu gli dai un attimo il cellulare, tipo quello di Giulia. Ah, non vuoi dare il cellulare? fai illuminare un attimo. Perché non lo vorrei dare comunque. Non ci fidi, Beth. Bloccatelo. No, traditore o un traditore? No, gli diciamo di dare un'occhiata con la luce. Però non va la luce in questo. Anche per vedere che cazzo di magazzino è. Magari si scopre che è un deposito di Kalashnikov AK-47. C'è il uno, che però accetta. Andare con la torcia mi sembra la cosa più sbagliata. In assoluto. Cioè, delle due gli dico di entrare dentro... provare a nascondersi, gli diamo un auricolare, sì, e mi dice che cosa c'è. E poi però scompare. Vabbè, quello di Ema. Va bene, facciamo così. Diamo l'auricolare di Ema. Sì. Vai, adesso, rievocati. Preparati una frase da dire in fretta per fargli perdere meno secondi possibili e soprattutto... No, vabbè, il tempo c'è, un tu, cioè cosa ci mette massimo due round per vestirsi. Non so. Puoi anche entrare nulla, dai. Deve scomparire. Se fai 6 può anche andare al nudo, se ne frega, tanto puoi scompare. Sì, il problema è che ci sono telecamere, sa anche sono io perché vedo i piedi palmati. Metti di fargli mettere solo i calzini. Sì, ma Vezza, a parte che chi lo sa che aveva i piedi palmati, a parte noi? La polizia gli hanno cancellato la memoria ai nostri amici, nessuno sa che aveva i piedi palmati. Beh, si mette i calzini in passamontagna ed entra. È sempre più imbarazzante, ma... Sì, sì, vabbè. Siete pronti per questo? Beh, non cambia, cioè la cosa non credo che cambi niente. No. Comunque, vabbè, fa lo stesso. Passa montagna, calzini e auricolare. Riproviamo, mi sdoppio. Creo, gli dico di vestirsi. Gli dico, vai dentro, nasconditi, cioè cerca di non farti notare. E guarda cosa c'è, dimmelo l'auricolare, dopodiché sì, in tempo reale fuori. Tutto quello che vedi. Tira. 5. Ok. Bravo, Vez. Tira su riflessi per nascondersi. 3. Ok. Ok, sto entrando. Entra. E il magazzino sembra vuoto, il tizio che ho visto prima non c'è. Mi metti in un angolo, voi sentite da fuori. Ehi tu, alza le mani, fermo. Perché okay. Sei qui? E cosa devo fare? Cosa vedi? Chi è? È armato, chi c'è? C'è un uomo che mi dice di alzare le mani. È armato? Sì. Chiedi chi è? Chi sei? Che cazzo devo fare? Che cazzo? Alza le mani, stronzo, fatti vicino. Chi sei? Nudo, con un passamontagna di calzini. Gli dai questi calzini e dici guarda se mi sono armato, faccio di merda e poi scompare. Allora, voi rimanete impietriti. No, sì. noi si dice che gli in mano delle due. Prova a fai tipo, fallo fuggire, così lui lo followa e noi pam! Capito? Ok. Scappa. Scappa, torna qui fuori. Dico. Io. Prego, Vezzo. No. Sei! Uno. Ok, io alzo le mani. Avresti dovuto dire rialza le mani. Avrei dovuto dire. Bravo, alza le mani. dopo un po' sentite un rumore di qualcosa che cade. Ehi, ma vabbè. Che cazzo? È scomparso. E non sente più niente. Okay, vabbè, Salla, prova di ascoltare per capire se il tizio viene verso la porta. 4. Non ti sembra. Però secondo me ci sta questo tizio qua a tirarlo lì all'ingresso per provare a stordirlo. Cioè l'unica opzione che abbiamo secondo me per poi cogliere di sorpresa. Abbiamo perso passamontagna, auricolare. Sì, se tu apri la porta e fai e chiudi la porta di fretta. Fai capire che la porta è aperta e che c'è qualcuno fuori e il tizio magari... No, non è detto. Magari va a controllare. Cioè, lo so che è un po'... Abbiamo il taser, volendo, per dirlo. Sì, sì, vabbè, qualsiasi cosa. Cesoie, tutto bene. No, le cesoie fanno un po' più male. È armato, rega. Appunto. Ma se esce con la pistola... Ragazzi. No, non lo so, sei già sopravvissuto, hai paura. Cioè, costo solo con questo equipaggiamento qua... Beh, la porta di ferro, no? Tu bussi, lui fa per aprire, attacchi il taser alla porta. No, la maniglia di plastica. No, però effettivamente, no, però possiamo bussare. Noi, lui, tecnicamente lui non sa niente di noi. Cioè non è che lui apre e dice, perché noi magari siamo dei cittadini che siamo di lì e vogliamo chiedere cos'è quel magazzino. Lui è uno che sta lavorando normalmente, magari fa il suo tour. Strafatti di cani. Ci sta, ci mettiamo... Cioè, magari ci togliamo il passamontagna. Ah, tu dici proprio di parlare. Di fingerci della gente normale e poi proprio perché ci fingiamo. Scusi, sono normale. Troppo in botta, mi sa dire dove sono. Passo indietro, ci hanno mandato qui, gente che ci conosce. Sì, ma ci hanno mandato come missione. Non è che al tempo stesso dentro c'è gente che possa conoscerci? Secondo me no. La nostra missione, Sceo, cioè come se 007 salve, sono l'agente Bond e lo ammazzano istantaneamente. 007. Questo è l'esempio sbagliato, direi, perché più o meno 007 è così. Vabbè, però è per dire che, cioè, ovvio che non sanno chi siamo noi. 007 cioè, non sa nessuno chi ehi, siamo noi. Ma lui è Bond. Non provare a fare un gran casino. Anche perché 007 provare a tirarlo fuori. Sono Bond, James Bond. Cioè, l'idea erano, però tu gli hai detto è armato. Cioè, fuori. Il tizio è armato e ci rischia di far del danno, cioè di spararci se noi siamo aggressivi, ovviamente. Se noi ci fingiamo dei ragazzuoli che passano di là, abbiamo l'effetto sorpresa. Va bene. Quello volevo dire. Io e lui magari sono quelli che c'erano armati di teso, stiamo pronti a reagire. Vai, allora io intanto torno da Giulio che gli spiego la cosa. E... Perché se questo mi spara, io voglio subito. Vabbè, non credo che se non ci spari. Credo a tutti, Vez. Sì, beh, però nel senso che io sono messo ancora peggio di voi. Sì, se le braccia le hai messe come tutti gli altri. Certo, però se mi becca nel busto, Giulio, beh, ti dispiace. Posso parlare, posso provare a farla, però posso parlare io col tizio. Sì, io sono in macchina. Un po' le strade loro. Cosa ci fa con quelle cesoie? Ah, scusa, cazzo. Tu non puoi usare tu non puoi usare il tuo cazzo di cucchiaio. Quello voglio fare, per quello voglio parlarci. Ah, ok, posso dire, certo. Vabbè, allora io intanto lo aspetto in macchina. Io busso alla porta. Busso alla... Chi va alla porta? Mi metto in macchina, io mi metto in macchina e guardo col binocolo. Allora direi io Arci e Catta. È illuminato lì. Sì, ovviamente, Salla, non abbiamo io non ho le cesoie in mano, non ho il passamontagna. Andiamo puliti. Allora vi riporto tutto quello che non vi serve. Il passamontagna mettetelo in una tasca. Sì, sì, è ovvio. Le cesoie le riporto. In testa. Quello tienteli. Sì, io riporto le cesoie. Io ho il taser e i sassi. Busso, io busso alla porta, anzi no, sono il campanello. Vai, tu. Che era quello che ho detto lì. Tu non ti ricordi un cazzo, stai zitto, la mia idea. Grazie, chatta. Chi c'è davanti? Io. Sì, cioè, io e vabbè, loro magari... Voi magari... Io sono in macchina e sto guardando col binocolo. La porta è larga, non è che siamo in filo. No, era per controllare se farci vedere tutti e tre o no, e, sì, o magari farvi usare voi l'effetto sorpresa nel caso mi succedesse qualcosa. Io l'auricolare, cioè, ho modo di nasconderlo, cioè si vede palesemente se lo tengo. Presenti butta fuori. Sì, sì, no, vabbè, ce lo togliamo. Sì, allora me lo tolgo anch'io. Ma posso metterlo, cioè... Beh, però sì. Salla, un auricolare comunque tenuto in tasca, però ovvio posso, che non senti la voce, esatto. Ma se senti degli urli... Esatto, così lo sento. Senti. Quello volevo dire. Ok. Allora, oppure così. Semplicemente sotto la maglietta un po', che il microfono funzioni comunque. Sì, ti faccio dei tuoi peli che... Cioè invece che mettermelo all'orecchio me lo faccio passare attorno al collo ma sotto la maglietta. Sì, no? Sì, vabbè. Quindi bene. Tu arcibussi e dietro hai Sceo e Catta. Suona il campanello. Sì, noi siamo accanto. Sì, siamo tutti e tre. Come se fossimo tre bambini che vanno a chiedere dolcetto scherzetto a una vecchietta. Aspetti un minuto buono. Mm-hmm. A un certo punto si apre la porta ed esce un tizio abbastanza grosso, buzzoso. Cosa hai detto? Buzzoso, senza capelli. Chi è che ha? Sì. Vedi che ha la mano dietro la porta. Ah, non apre? No, sì, apre, però ha una mano dietro la porta. Era una pistola. Ah, ok. Gli dico, salve, passavo di qua per caso, perché abito in queste zone. Caso o perché abiti in queste zone? Vengo da Fronzul. No, per caso abiti in queste zone? No, per caso ovviamente è stato cancellato perché abito in queste zone. E, ho notato dei movimenti qua vicino e la telecamera spaccata. Ho visto uno che secondo me può averla rotta. Non indicarmi, no, indico la macchina. Indico la telecamera. Ok. E lui alza gli occhi. Bene. Grazie. Buona serata. Buona serata a lei. Io uso il potere. Ok. Tira. Cos'è? Mente. No, controllo. Cosa devo tirare? Scusa. Di 6 controllo. Perché controllo? Controllo per vedere se riesci a fargli effetto. Uso un punto psiche. Tiro un di 8. No, aggiunge la sua psiche. 10 totale. Ok, vedi che allora, i tuoi occhi diventano bianchi. Vedi che. Ah, vedo che i miei occhi diventano bianchi. Indegno. Sì. Fighissimo. Ah! Ah! E vedi che adesso vediamo. Allora. La combo è quella, Quanti punti psiche hai, Arci? Ne avevo 5 e adesso che ne ho usato uno direi che diventano 4. Direi che mi fa una bella prova di psiche. Cosa devo tirare? Un di 6 più... Sempre quello. 2 più 4, 6. Non mi ricordo più dove è psiche, ma... Secondo me tra un po'. Cosa hai detto? Cos'hai detto, Salla? 6, hai fatto? Sì. Ok, tirami 6. Ancora? Sì. 3. Non so se devo far cosa. Per cosa ti serve, Sceo? Vabbè, niente, no, lui taxi la mattina. Ok, in questo momento ti senti molto più stressato rispetto al normale. Italiano. Stressato cosa vuol dire? Da Barcellona. Agitato o mal di testa? Agitato. Ok. E vedi che lui... Vedi che lui accusa un po' un attimo il colpo, però sembra che si stia un po' riprendendo. Eh no, ok, ma io volevo intervenire nel momento in cui lui l'accusa il colpo. Eh no, ok, tirate iniziativa. Ah, ok. Oh, regà, siamo un 6 qua, 6! Oh! 5! Ok. 6! L'amico lo slava. Catta? 2. Come 2, catta? Se io faccio 6, tiro la spallata. Ok, cominciarci. Saterci. Io ne provo ad approfittare e di... Mentre è confuso, così confuso da colpirsi da solo, prova a tirare una spallata. Ok, tira. Cioè, sì, classico. Classica mossa. Vista e rivista. Cioè, se le... Io non sono mai stato bravo in matematica, eh. Potrebbe sembrare un 1. Però, cioè... Vedi che tira una spallata alla porta. Ok, stai per dare una spallata, ma vedi che lui aveva già cominciato a socchiudere la porta, quindi dai un colpo sulla porta e non colpisci lui. No, non ti fai niente. Non hai capito, colpisco la porta? Sì. E la porta come è messa? Perché? Io capisco che è confuso grazie a lui, ovviamente, immagino. Tu vedi che lui si è tenuto un attimo così. E quindi l'idea è di sorbirlo... Vabbè, il taser, però... Sì, ricordati che hai i sassi, Quello serve il taser. Sì, uso il taser. Ok. Devo tirare, non so... Sì. Dove devo tirare? Allora, il taser è un'arma da mischia, mi sa. Ma io ho la conoscenza del tizio che lavora nei locali. Cioè, il concetto è che io lo prendo e glielo appoggio, tipo, alla parte, insomma, al torso... E anche li butta fuori. Esatto. Allora, il taser è un'arma da mischia. Magari era una delle tue conoscenze. Quindi fisico. Sì. E io conosco il buttafuori. Conosco un sacco di buttafuori della mano. L'ho colpito bene. Sì. Devo tirare dei danni. Lo so, il taser fa anche danni. Fa un D8 per 20. Devi prima vedere dove hai colpito. Lo tiro io dove colpisco. Quello delle scuderie? Io. Più di altri. Allora, lo colpisco 5, quindi braccio destro. Che è quello che pugna l'arma, volevo sottolineare. Bravo Sceo, bravissimo, che hai detto 5 anche se hai fatto 3 col danno. Mi dicono che ho mira anche senza usarla. E adesso tiro i danni, un D8 per 20. 8! 3 per 20, 60. Beh, 60 danni al braccio, glielo stacco, tipo. Ma ok, senti, senti un oggetto che cade. Pensavo senti la scopa. Bravo Sceo! Lo vedo. È giunto il momento, catta. Intuisco possa essere la pistola. Strangolati da sola. Tocca a lui, che cerca di chiudere la porta e fa una prova di forza con Arci, che gli ha appoggiato. Piuttosto ci rimango in mezzo. Tu hai il D8 di base, qualunque cosa fai. No. Ho l'1 di base. Uno di nuovo. Arci viene sbalzato un po' indietro e lui riesce a chinarsi e prendere la pistola. Sì, e cos'è? Sta cercando di chiudere la porta? Lui dà un po' di spinta. La porta si chiude un po' di più e lui riesce a tornare un attimo indietro e prendere la pistola. Tocca a Catta. Vai, vado a strangolare. Dai. Si è richiusa la porta. Lo taserò anch'io. Ma in teoria, scusate, sono un po' ignorante, ma un taser in teoria non ti stende. In teoria. Però magari l'hai preso male, ce l'hai vestiti. L'hai preso così al volo su un braccio. E lui mi ha staccato il braccio. Posso mirare a dove ha colpito Sceo? E Sì. Ma perché devi mirare la rapina? Perché c'è già fatto dei danni. È perché il braccio destro che è quello che usa per sparare. Capito. Okay. Vai, vado. Oddio, per se lo prendi la testa va bene uguale. Cioè, nel senso. Anzi, santa danni. Non è arrivato, però si deve ricaricare, nel senso, quindi un colpo e basta. Voglio segnare che ho perso un punto. No, sai quello manuale, no. Non c'è un coso. Sì, ma una volta sparato, basta. Sì, il taser a fuoco singolo. No, aspetta, però. Vuoi contrarlo per il... Contrarlo per il... Adesso che l'hai detto. Vabbè, è facile, cioè il Twitch c'è capo. No, puoi riutilizzarlo, scio. Puoi riutilizzarlo, ok. Bene, provo a colpirlo. Vai. Tira 4. Lui prova a schivare e riesce a evitare il tuo taser. Che prende? Di nuovo. Ci fai un tiro di osservare. Grazie. Voi sentite un po' di movimento? Ma raga, però c'è lì, sono davvero. C'ho degli uno, ho tutto uno. Sono uno contro tre. No, sono uno contro uno, c'ho degli uno. Cioè. Raga, la mia scala sentite, va uno, sentite uno, i rumori dalla macchina. Io allora tiro a osservare. Vabbè, in teoria vedono un po' la scena. Cioè vedono il tizio uscito, cose così. Sei. Vedi esattamente la scena e vedi che Archie sta per entrare nel magazzino. Vero Archie? Cosa fai? No, mi sono perso qualcosa. Sta a te. Io vedo cosa state facendo voi. Perché eri in sala? Perché adesso immagino che tu andrai su di lui dentro il magazzino. Cioè, quella era la mia idea. Però era anche di usare un potere, non lo so. Ah, non lo so. E... lui ha la pistola, l'ha raccolta, non l'ha puntata, no? L'ha appena presa, di fatto. Sì, l'ha appena presa. Anche Vez, anche tu puoi fare qualcosa, potresti anche tirare l'iniziativa voi due, tra l'altro. Sì. Ok. 4. 5. Vabbè, Salla, comunque voi avete i taser, no? Cioè voi siete gli armati di taser che l'avete uno colpito e tu l'hai missato perché l'ha schivato. Prendi le Vabbè, Salla, buona, e prova a tirargli una spallata, cioè per farlo cadere. E uso un punto psiche. Ah, addirittura. Okay. Cioè, lo somma al mio di 8, no? Sì, sì, sì. Cioè, all'1. Esatto. 4 più 4, 8. Ok. E tira, fai una prova di psiche. Cinque. Tira basta la psiche. Ah no, esatto, 5 totale, 2 più 3. Ok, intanto ti dico che vedi che lui l'hai capottato indietro e la pistola è rimasta lì davanti. E lui è a terra un po' indietro dentro al magazzino. Scegliamo di raccogliere la pistola. Mira la testa. Non volevo ucciderlo. Io non ti voglio uccidere. La punta e poi. Asci tira un di 10. Me la tiro. Di 10, raga. Aspetta. Di 10, aspetta. Usa questo del potere. Uso questo qua, così la responsabilità è tutta su di Vez. Ok. 4. Te l'hai con questo? Se avessi fatto 9 sarebbe stato meglio, immagino. No. Ah no. Guardalo come ride. Ricordati chi sono. Posso spappolarti quando mi va. Sì. Rendere realtà i tuoi peggiori incubi. No. Cosa, Salla? Tocca a Sheo. Scusami, cosa fa il mio effetto 4? 5. Dopo te lo dici. Ah, non me ne accorgo adesso. Vabbè, io... No, il prossimo round. Okay. Io ho visto una pistola per terra. Perché vi prego, sistemate la situazione entro il prossimo round. Posso calciarlo? Vabbè, ma il tizio è senza... Come, scusa? Sì, io sto per tipo impazzito. Non ho capito. posso calciarla lontano. Ma che cazzo calci lontano? La pistola. Sì, puoi farlo. Fammi un tiro di osservare però prima, Sceo. La Sceo sei no, calciala verso di lui. Ma non voglio ucciderlo. Ma non dico di ucciderlo, ma la tieni tu la pistola. Se la calci lontano... Spinto la calcio via. Con la precisione. Il passaggio perfetto. Dietro di lui, in fondo al magazzino, vedi che c'è un'altra persona che sta avvicinando, armata. A questo è appena passato la pistola tirando il calcio. Guarda, questo lo vedo prima o dopo la pistola. Ehi, grazie. Ok, allora... Ok, la mia concitazione è molto diversa. E allora prendo la pistola e la punto al tizio per terra, intimandogli di stare fermo. Va bene, Giulio. E c'è arrivato un altro tizio armato, probabilmente. Non lo so. Mezzo la vista la scena. Sai, un conto eravamo tutti contro questo sì, terra. Cioè, la scena, okay. Però avete perso di vista adesso che sono dentro. Vedete uno catta fuori. Se non altro, allora sì che va minacciato. Cosa facciamo? Mi preparo a partire. Non è il mio turno. Adesso vedi lì che vorrei parlarti, ma non è il mio turno. Vai, parlare puoi rispondere. Parlare puoi rispondere. Posso mandare il mio clone a vedere. Vai, manda. Ok. Ma scusate, non tocca prima a te, Giulio. Anzi, no. Vabbè, facciamo così. Tu rimani in auricolare. Ok. Io mi avvicino. No, non ti avvicinare che c'hai la spalla che stanno combattendo. Vabbè, ma dalle siepi, Avete coperto. Visto comunque che io mi sono fiondato su di uno, eh? Dalle siepi sarai coperto, sì. Io, vero? Mi hanno visto che sei entrato. E sapete tutti che è armato. Ci sono delle siepi davanti, giusto? Sì. Quindi io posso nascondermi dietro la siepe. Sì, ma dove sei tu non ti vedono, perché tu non vedi loro. Scusate, no, senso, voi avvicino, sapete che il tizio dentro l'armadio e io ci sono finito sopra. Quindi due intervenisti. Questa è la mia idea. Va bene. No, nel senso. Sì, vabbè, cioè, intanto arrivo dalla siepe. Non so. Sì. E poi mi si capisce che ha. Ok, il tizio. Allora, il tizio per terra si rialza. E intanto il tizio dietro di lui si fa un po' avanti e mira Sceo e gli spara. Cioè gli spara, cosa vuol dire? Presente. Ok, provo a schivare io. Ok. Sei pronto di 6, no? Sì. Ma io ho B-internet, non mi aiuta. Videogiochi. 4. In teoria ho B-videogiochi, la cosa... Ah, quanto devi schivare nei videogiochi. Riesci a schivare il colpo? Cazzo di sì, tasti, non lui, però, non lui. Adesso quando mi comprerò il QR voglio la prima del gioco. Vorrei scrivere un cazzo di programma militare e mi dici è uguale, oppure scaricarti Siria così. Ti mangi medicata di giochi di ruolo. Medicata con problemi. Medicata con le mani in tasca e gli scrive proiettili. Vabbè, un po' di aiuto te la do. Comunque 4. Riesce a schivare il colpo. Oh! Il tizio che era a terra si alza e si fa un po' indietro. Tocca in una settimana accata il nuovo presidente della Siria. Puntata verso quello per terra, almeno. Meglio re. Sì, ma si è rialzato e si è spostato. Ah, si è alzato. Ah, oh, ok. Catta. Riesco ad arrivare addosso a quello che ha sparato a Sceo? Sì. No, a quello che si è rialzato. Dice. Raga, ormai c'è un killer, può sparare lui. Ma non voglio uccidere la gente. Raga, siamo comunque... ormai... Visto che tu eri super mira, visto che era super mira, tu puoi spararli o a una spalla o in una gamba. Piede, sì, non all'arteria femorale, magari. Vabbè, fagli sparare, uccidere, così che è risolto. Ormai non ci... Si fa carico di tutti i problemi, diciamo, morali della compagnia. Ormai lui è già un omicida. Uno in più, uno in più, uno in più. Secondo me è indeciso semplicemente perché c'è poco spappolamento di sangue. Cioè, c'è il modo che io vado a taserare il ciccione, provo a farmi scudo col suo corpo. Vabbè, intanto provi a taserarlo e vediamo. E poi provo a frapporre lui tra me. Vorrei aggiungere che Katta comunque ha giocato a basket e come posizionamento che c'era nell'attacco di Katta era simile a questa scena. Tira per colpire, ti dico già che lui prova a schivare. Immaginavo. 3. Non lo colpisci. Vabbè, mi frappongo, me lo metto tra me. Anzi, prossima volta il taser di casa la puoi prendere tu. Però non è qua. Tu mi dici cosa succede. Ok, che senso? Ah, scusa. Tu hai detto che devo ti... Improvvisamente ti viene fame. Vabbè. Tipico. E c'è un ciccione davanti? La mia era... Sono una persona molto razionale. Ma non di le tasche, magari è una merendina. L'ipostuzione. Vabbè, niente, puoi agire normalmente. Però. Solo che Vabbè, non è che sono un animale. Vabbè, anche io provo a fare la stessa mossa. Cioè, vedo che Katta si fionda sul tizio. Ah, no? Tipo psiche 3. Tu stai impazzendo. Allora. Fammi la bestia. No, qua, sì, no. Katta si è lanciato sul tipo, no? Beh, anche Genshin. E l'ha missato, però non, non gli ha dato una spallata, anche giusto? Io sì. Anche Katta. Sì. Siamo gli unici normali, Katta è davanti al tipo, e che dentro c'è un altro tipo. Si mangia il ciccione. Scemo, così spara tipo gli insetti. Raga, la situazione è grave, la situazione... C'è il tizio che ci sta sparando comunque, adesso noi ridiamo e scherziamo, però... Io sono inutile, visto che non sono armato. Sei tu che hai la pistola. Anch'io. Ho perso quel ci sto pensando. Anch'io. Sta là. Schivare proiettili. Il magazzino. Che oggetti ci sono in questo magazzino? Io l'ho perso. E guardandoti intorno vedi che ci sono moltissime casse. Beh, casse e scatoloni uguale. Per Giulio va bene. Casse, ma ho capito, ma c'è scritto sopra, non so. Sono l'unica cosa, sono molto grandi. Cioè, sono alti più di un metro. Sono scatoloni di legno o casse di scatoloni di cartone o casse di legno? Cartone. E non, si, non ho nessuna cosa che mi possa far capire cosa ci sia dentro. No. Cioè, per capire se ho pagato il bestiario. Sono molto grossi, cioè sono molto grandi. Non c'è un simbolo sopra. Sì, esatto, tipo non si capisce se è un magazzino di lampadari. Infiammabile. No. Rischio batteriologico. Un deposito di munizioni o di armi. Non c'è scritto nulla sopra, però alcuni hanno una forma allungata, tipo sai che ha le travi. Ah, ok. Oltre agli scatoloni c'è altro questo magari. Oltre agli scatoloni, allora in fondo vedi che c'è una luce che arriva da una sorta di gabbiotto. La stanza quindi con cosa da cosa illuminata? Le cesoie dove sono, raga? La stanza non è illuminata, l'unica luce che avete è la luce in fondo che illumina la stanza. Se mi mettessi auricolari, che cosa è? È una sorta di gabbiotto, sai, quelli tipo da personale, custode. Sì, tipo, avete sentito lo sparo? La domanda è... Ah, tu avresti sentito lo sparo, però avete sentito lo sparo. La lampadina che io l'ha sentito anche. Sì, c'è una vetrata e dentro c'è una luce. Tipo, sai, quelle robe... L'oggetto allungato. Tipo custode, gabbiotto, non so come cazzo. Ma io vedo la lampadina da dove sono. Sì, però è dietro a un vetro. Allora, scusami, l'oggetto allungato tipo trave, è tipo trave che è lunga 3 metri tanti, o può essere anche più corto? Posso prendere uno schermato? 2 metri, no. Cioè, poi sono grossi, però sono molto grossi. No, no, no. Sono delle robe tipo larghe così e lunghe 2 metri. E quindi la porta dell'entra che spara anche al lampione. Il tizio ciccio merda ha un manganello? Una buona domanda. Puoi tirarmi su osservare, però. Io li conosco, sono ne ho presi tanti manganellati. No, 5. 5. Vedi che in effetti c'è un manganello, ma è in fondo alla al magazzino, dietro al tizio con la pistola. C'è stato un piccolo problema di audio. No, era davvero un ripeti. C'è un manganello. Vedi che in effetti c'è un manganello, però è in fondo ed è probabilmente dove si sta dirigendo il tizio, perché è dietro al tizio con la pistola. Okay. Quindi non è a portata mia. No. No. Domanda, le pistole non sono silenziate, vero? No. Io sono col cazzo che faccio. Cioè, o uso un punto psiche, però rischio di impazzire. Vabbè, è quello che devo fare. Sì, che possa essere efficace a quella distanza. Beh, non importa. Cioè, per usare il tuo potere, non devi usare necessariamente un punto psiche. Sì. Per usare il potere, sì. No, per usare il potere non devi usare un punto psiche. Per usarlo, no. Ma come allora, no, allora non l'ho perso prima. No, prima l'hai usato. Prima hai detto. No, l'ho usato per il coso. Esatto, lì l'hai perso. Ok, ma io ne ho tolto anche un altro prima, per usare il potere. Ma ne hai usati tipo 2 o 3. Tu ne hai persi 2. Io ero 5. Ne ho usato uno per la spallata. Adesso, poco fa. E uno per cosa l'ho prima spallata, forse. No, mai no. Usato. Tra l'altro l'ho tolto perché ho usato il potere per confondere il tizio. Ha ragione. Giuro. Cioè, io gli ho fatto confusione. Allora sì, allora non l'hai perso. Allora lo uso adesso. Ah no, allora no, allora uso il potere, no, di nuovo. Il problema è che non puoi usare sui cosi mentali un punto psiche. Ah no, però, infatti... no, sai che forse l'hai usato sul primo dado controllo, il primo punto psiche? No. No, no, no. No, l'hai sommato al dado controllo, no? No. No. Quando è che hai fatto 10? No, aspetta, no, quando è che hai fatto 10? Ha fatto 8 per la spallata. Per la spallata, ho fatto 4 più 4. Che tu gli hai fatto un 10. E dopo lui ha fatto fare il tiro psiche che tu hai detto no, devi aggiungere 3 e non 4, perché lui se ne stava togliendo appunto un altro. Sì, ma sì, ma erano per i tiri che mi chiedeva assalto. La seconda volta, la prima volta ha tirato. Non c'è una prima volta. Non ho usato. Sei stressato, perché cosa avevi usato il punto psiche? Il primo attacco che ho fatto al tizio. Abbiamo la diretta, dai. Presente la confusione che ho fatto il primo attacco. Io ti ho detto uso il mio potere e ho tirato. No, vabbè. Però mi sono tolto un punto psiche automaticamente. Ah, no, non dovevi togliere, dovevi fare una prova di psiche. Esatto. Okay. Io però mi ero già tolto un punto psiche lì, senza, cioè a cazzo. Mm-hmm. Quindi lo uso. Ah no, non lo uso, no, adesso. Uso il potere su quello con la pistola per confonderlo. Ok. E devo tirare il dado di controllo. Sì. Magari spalla il ciccione confondendolo, così facciamo un morto senza che sia colpa mia. Non è assassino. 2. E poi devi fare una prova di psiche. Non devo sommarci la psiche a questo tiro. No, adesso sì, fai una prova di psiche, mente più psiche. Quindi, esatto. Praticamente il tuo... Il primo dado di controllo ho fatto 2. Ok, il difetto del tuo potere è che tutte le volte che lo usi devi fare una prova di psiche. Ok, ok. Ho fatto 6 di psiche più 4, 10 okay. Totale. Vedi che ti impegni ma non riesci a scalfire la sua mente. Però rimango a 4, giusto? Sì, sì, sì. Ah, beh, allora bazza. Okay. Sì, io lo uso. Praticamente il difetto è questo. Se tu hai più di 6 punti psiche, ne perdi uno. Se no, devi fare un tiro di psiche, quindi puoi in effetti perderlo. Se ti ok, gli effetti erano tipo quello che mi veniva fame, mi confondevo. Beh, in realtà c'è anche disturbo mentale, robe, sì. Pese. Vabbè, vabbè. Ok, tocca a Sceo. Quanto disto dalla... Cioè, dimmi la stazione dei miei compagni. Sono in piedi, sdraiati. Allora, tipo 3 metri da te c'è Katta con dietro il tizio. Ah, Salla, se posso muovermi io mi sposto un po' a sinistra per evitare di essere in traiettoria col tizio che spara. Okay. Tipo dietro uno scaffale o dietro un qualcosa a caso che mi faccia un po' da muro. Ok. Va bene. Io a quanto disto dalla porta? Allora, la porta è tipo 6 metri da te, più o meno. Davanti a te, più o meno a 3 metri, c'è Katta con dietro il tizio. E un po' defilato c'è un tizio che ti punta una pistola in faccia. Okay. Ed è un po' più lontano, fai conto 9 metri più o meno, una decina. Archie è alla tua destra, può darsi, dietro a uno scatolone. Ok. Io ti dico quello che vorrei fare, poi dimmi cosa è fattibile. Vorrei nascondermi dietro, come ha fatto lui, coprirmi dietro qualcosa. Contemporaneamente al movimento, urlare agli altri, nascondetevi. E se riesco a sparare alla lampadina, che è l'unica cosa che illumina la stanza. Puoi fare un'azione e un movimento. Quindi parlare, io sì. Sarei per la prima volta favorevole al fatto che tu provassi a sparare al tizio che è rimasto sceo. Cioè, ti spostarti di lato e poi... Ah, supprimila, non devi uccidere per forza, basta che gli spari alle mani. Ha lanciato un disco che era a terra e adesso non spara. Non spostarti. Nascondermi intendevo semplicemente cercare di coprire le tue cose. Il tizio che è armato ci sta per ci rischia di uccidere, no? Evidentemente lui non. Tu hai la super mira e hai una pistola in mano, tu puoi tranquillamente spararli senza ucciderlo. Lui non ci spara più. Eh? Se faccio buio nella stanza, lui non comincia a sparare a caso. Ma rimane armato? Sì. Ti dico già che tirare a sparare su una luce dietro a un vetro a tipo 15 metri è abbastanza difficile. Anche la mia domanda dopo era quanto mi sembra facile la cosa. Per me è molto comodo, se gli okay. Spari a lui allora nelle sì, mani allora o sì. Non era, spara. Era la mia ultima possibilità. Sì, può sparare anche la stessa pistola. Sì, esatto. Un'altra cosa, se fai un tiro mirato, non puoi muoverti. Ah, cioè mi occupa anche il movimento. Esatto. Allora cerco di disarmarlo, è la mia priorità, sparandogli alla pistola, alle mani. Stile Tex Wheeler. Ok. quindi tiro due. Quindi ovviamente per sparare esattamente potere. Dentro la canna. Sì, vuoi usare un punto psiche per essere sicuro di... No, che già ne ho pochi. Sei. Ok, lui proverà a schivare. Però non può schivare perché deve fare di più. Okay, lo colpisci? Deve fare dove più vuoi, o alla pistola o a una mano. Sì, ma... Alla mano, sì. Ma la pistola cosa intendi? Cioè, colpisco la pistola, ma... Gli vola via dalle mani, gli vola via dalle mani, ma non si fa dei danni lui. No, magari qualcosa, ma poi... No, probabilmente si rompe la pistola. Alla pistola? Ok. La pistola si rompe e gli cade dalle mani. Tocca a te. I vecchi tempi. Guarda, ce la giochiamo. Ecco, cioè, no, cazzo, io sono, ma Vezza agito. Io sto dopo di Vezza te. Agisce dopo di te. Vezza, sei una bellissima slava. Ma prima quando gli ho detto cosa tempo, facciamo? Vado a pisciare, tempo. Sì, si è spostato dietro alla siepe e ha fatto il drone. Che scappa anche me. E niente, mi accendo i motori, accendo la macchina e magari mi avvicino un po' al... Mi avvicino lì all'entrata. Ok, i due tizi. Uno scappa e va verso il manganello e lo prende in mano. Io sono quello che ha perso la pistola. No, quello che era vicino a Catta. Sono un po' più vicino all'entrata del coso. Ma con la macchina? Sì. Ah, ok. Con la macchina, con la macchina. Quell'altro prende fuori un tirapugni. Perché così se scappate. Si avventa su di te, Sceo, e ti tira un cartone. Ma non era tipo a 9 minuti da me. Bravo Sceo, mi piace quando sei attento. Si avventa su Catta e gli tira un cartone. No, vabbè, no, nel senso, non era lontano da noi. Oh, che Catta non c'è. Non era, scusa, non è lontano da noi. No, è vicino a Catta. Cioè, Catta è più avanti di te. Vabbè, Catta penso che proverebbe a schivare. Ma non c'è Catta. Vabbè, intanto tu tira, poi quando arriva a Catta. Vabbè, tanto andate a pisciare 2 minuti qua. Beh, vabbè, intanto si tira, poi continuiamo e vediamo se l'ha preso e quanto male gli ha fatto. No? Preso o l'ha preso? Ok. Vabbè, continuiamo. Poi vediamo. Dopo chi toccherà? Dai, tiro io per Catta, vediamo se lo tiro. No, tocca a Vez dopo. Vabbè, okay. Intanto... E io, ok, c'è il mio clone... E vabbè, cosa vedo io da lì? Da dove sono? Dalle siepi. Dalla siepe, se ti sporgi, vedi dentro al magazzino e vedi un movimento perché non c'è molta illuminazione da dove sei tu all'interno. Io ho sentito gli spari e basta. Sì. Cioè, dentro non c'è molta illuminazione, quindi io non vedo quasi praticamente un cazzo. Va bene. Finché non ti avvicini, no. Ok, allora. Cioè, vedi bene fuori, ma. Sto poi di un attimo prima di dire cosa fai tu. Vabbè, ok, intanto è tornato Catta che proverà a schivare. Catta, allora, si è avvicinato il tizio disarmato col tirapugna e ti ha tirato un cartone. Schivo. Schivi o pari? Puoi anche parare. Che differenza c'è? Pari, puoi parare col pari, cioè facendo, pareggiando il suo tiro. Okay. E devi su una locazione o un oggetto che possiedi il danno. Va bene, lo paro. Te lo dico perché lui ha fatto 6, quindi se schivavi non ci arriva. Per schivare devo fare di più invece? Sì. Esatto. Ok. 1. Bene, ti arriva una... Mitragliata! Ah, ti colpisce 8. Locazione 8. Gamba sinistra. E ti dà, ti fa 20 danni. Però... Bene, bene. Ah, in tutto questo io ho il petto che mi esplode di dolore. Vabbè, sì. In teoria io sto soffrendo come un cane da 2 giorni. Effettivamente. Vabbè, gli anti... Ah, gli anti... Cazzo, sto prendendo un antidolorifico in effetti. Invece sono io in macchina. No, questi come sono? Che se non lo posso guidare. Effetti avrei fatto tutto. Ok. Devi solo puntare per una sessione. Allora, io... Ho visto questa cosa qui, va bene, mando, dico al mio clone di andare a guardare dentro e di sporgersi di andare, cioè di arrivare alla porta e sporgersi dentro, guardare la situazione e tornare a riferirmi. Cosa è successo? Tira controllo. Ho preso un cartone nella gamba sinistra. E poi l'altra cosa che faccio è dire nell'auricolare agli altri di mettersi l'auricolare. Mi sei perso qualcosa? Sperando che senta. Quello disarmato, ho preso poi il tirapugno. Ce l'ho già fatto, vi conviene stare calmi, assumiamo il controllo del... Sei. E voi tutti dovete tirare a ascoltare, tranne Giulio che l'auricolare ha sentito. O tranne me che faccio 6. Uno di Arci? No, voi l'auricolare l'avete in tasca, tipo. No, avecelo, cioè... Non no, ce l'ho qua, ce l'ho sotto la mano. Io ce l'ho qui davanti vabbè, a me. Sotto io ce l'ho in tasca, sì. 5 di sci. Se io non sento, comunque poi puoi dirlo anche te. Ma che cosa hai detto? Scusa? Ho detto... 5. Ho detto mettetevi l'auricolare. Nessuno di voi ha sentito mettetevi l'auricolare all'auricolare. Nessuno? No. Sono in mezzo a una mischia, figurati. Ma ci ho fatto 6. Ha fatto 5, ha detto Scio. 5. Ah, ok. Vez, saresti là, per piacere. Sì. Ok, Vez, il tuo clone se ne va. No, aspetta, che senso? Sì, va verso il magazzino. Ok. E tocca a Katta. Io mi sono perso un turno, Salla. No. Sì. Dopo Katta tocca. Ok. Va bene, riuscirò a taserare qualcuno stasera. Sempre quello che tira pugni. E colpisce Sceo con la pistola. Sì, quello che mi ha... La difficoltà è 2. Me lo dici perché così sai che io adesso tirerò un 1. È vero capo. Chi ha l'altro peso? Io. Anche la pistola. Vabbè, Salla, nella fase di movimento posso prendere il taser di Sceo? Sì, puoi provarci. Cioè puoi andare. Vi dico una cosa. Potrebbe avere, anche se è un po' metagaming, potrebbe avere senso chiedere aiuto a quelli fuori con un auricolare. Sì, sì, ok. Cioè potreste anche pensarci, non è così fuori. È nostra! Io dopo è scontato che al rumore di spari i miei amici arrivino. Sì, lo so, però non vedi ancora nessuno, vabbè, ok. No, vabbè, no, io diciamo... Non è metagaming quello che ho detto sì, io. Sì, però è che c'è anche un problema tecnico, cioè noi vi aiutiamo esattamente come, a parte fornire altri bersagli, cosa che vabbè io farò. No, però diciamo così... Un cellulare che dà fuoco. Ma Giulio è ormai l'abbiamo perso. No, diciamo che nella però situazione in cui sono, non mi viene da usare così grande. Io immagino, non sto male. Se riesco, vorrei usare la mia fase di movimento per prendere il taser, corri addosso al tipo e poi usare l'azione per provare a taserare quello di Katta. Puoi prendere il taser e poi puoi muoverti, però l'azione non puoi usarla perché non c'è il tizio vicino. C'è nessuno vicino a Asher. Hai tu e... Ah no, allora vado su quello di Katta, è a terra quello di Katta, no? No, è di fronte a Katta. In piedi? Non so quanto sia in grado di Katta l'ha missato brutalmente. Ah no, allora vado di spalla. Mi vai dietro. Ricordati che dietro di lui c'è un altro, con un manganello in mano. Sì, insomma. Ah no, questo mi sono perso. Io guido, ma solo di tanto. Senti un attimo, che non lo ripeto 6.000 volte. Allora. Sceo è l'ultimo, è quello più indietro di tutti. Ok. A tipo 3 metri da Sceo c'è Katta con dietro un omino. Katta col taser e l'omino col tirapugni. Dietro all'omino c'è un altro omino con un manganello. Tu Arci sei più o meno verso Sceo come distanza dagli altri. Però Sceo ha la pistola in mano. Più defilato. Sceo ha la pistola in mano, sì. Quindi questi deficienti che cazzo fanno col manganello? Vabbè, allora io... Il Katta è contro due di fatto. Sì, io mi avvicino. Uno di Katta andrà su Sceo. Io vado verso di Katta per far capire ai due tizi che comunque c'è, li pestiamo. E gli dico: abbassate le armi, se no il mio amico fa fuoco. Ok, cioè le armi intendo il tirapugno e il manganello. Sì, e dico: non vi sarà fatto del male. E intanto sono vicino alla cappa. Okay. Mi metto in posizione da box come se loro credessero che io sia pro. Sceo. Sì, ma non in questo gioco. Box l'hai fatta. Ma non ce l'ho qua. quindi al lato pratico sparo al manganello del tizio. Il manganello del tizio è dietro Kat e un altro tizio. Vabbè, ah, è proprio dietro. Ma che due sparagli alla spalla, scemo. Vabbè, allora spara un piede di quello davanti a Kat. Quello davanti a Kat si è combattuto con Kat. Spalla il piede agli attacchi. Quindi la difficoltà è aumentata. Era la mossa di maschera medievale. Posso, però se io mi sposto poi non posso usare il mio potere per mirare. Esatto. Spara un colpo in aria. Scemo. Ok, ha fatto ridere tutti, lo so. Vabbè, io vorrei mirare la caviglia, però... Basta, cosa sono finale? Cioè, nella mia cantina è spappolato la faccia un universitario per terra. Disarmato. E questi armati. Giorgio mi stava sulle palle. Miro alla gamba... Questi che ti hanno sparato sono più simpatici, non ho capito. Miro alla gamba di quello che addosso a Catta e spreco un punto psiche pur di evitare Catta. Vai, con lo sguardo. Perché non mi piace. Usando il mio potere, ovviamente. A cosa stai sparando? Scivo la mano. Alla gamba. Alla gamba. 6 più 5, 11 più 3, 14. Merda. Però ho 2 di psiche adesso. Puoi scegliere la cellula che colpire, Salla. Okay, fai una prova di psiche. Sì, aspetta. Se impazzisce, batta tutti la vista. Prima tira i danni. Sì, che non mi ricordo mai, scusami. La pistola fa un G8 per 20. Come il taser. Però fa molto più male. No, un D8. Ah no, un D8, non dico, sì, lo spacca i culi. 2, 40. Poi faccio la prova, okay. Poi faccio la prova di psichiche. 8, però vale. 8 è andata molto bene. Calcola che avevo 2, quindi ho fatto 6 col dado. Grazie. Perché sei più 2. Sei più 8. 8. Però... Ok, vedi che vabbè, niente, tizio scazzato, ha accusato molto. Questo. Che, non mi che gamba l'hai colpito, scusa? Avrà preso un po' della mente, so, matematica. Che meglio. In teoria era come siamo, sì, la destra. Devi dirmelo tu. Destra. Ok. Perché la mia gamba destra mi fa male, quindi voglio che a tutti facciamo male la gamba destra. No, ma non è una delle tue gambe più corta? No, mi fa anche un po' male. E quindi sei tipo squilibrato. No, ma mi serve per appoggiarmi e mirare. Cade in ginocchio. Mm-hmm. E tocca a Giulio. Niente, sono lì fuori con la macchina accesa e continuo a rimanere lì con la macchina accesa. Madonna, di un'utilità devastante. Vabbè, in realtà capito, non ha senso che io lasci la macchina lì. Cioè, se noi sapessimo che Giulio spara fuoco dal cellulare, magari gli avremmo dato un ruolo diverso, ma non sapendolo. Ok, già il terzo sparo che sei. No, non te ne sei accorto, eri concentrato. Che scappate. Perché nel frattempo, mentre tu sparavi, entrava il clone di Beth dalla porta. Ah, no, in teoria è giusto. Vabbè, in teoria è ancora dietro di me. Se non l'ha fatto, non so, te ne sei accorto. No, io personalmente forse non farei la macchina. Posso fare un tiro sui riflessi? Giusto, però è giusto che lui sia lì in realtà. Ok, tocca al tizio contro Catta che tira un pugno a Catta. Il tizio contro Catta è in ginocchio. Ci prova. No, Sala, io sono lì di fianco, non ho l'attacco d'opportunità. Vero? In ginocchio, quindi ti tirai marrone. Esatto, glielo parerò malissimo. Io rischio. Parli, Catta. 2. Parli con la faccia. Ti colpisce a locazione 3? Busto. E ti fa 80 danni. Quanti? 80. Ti ha colpito proprio sullo sterno. Ehi, sì, è riuscito a dargli la schiena. 80 danni. Arci, il tizio davanti a te arriva e ti dà una manganellata. Scusami, Sala, uno non gli è stato sparato una gamba? Sì, quello che ha dato il pugno a Catta. Oh. Sì, cazzo sono. Io l'ho sparato al manganello, ma non l'avete voluto. Sì. Ti butta fuori a Borgo Panigale, sono degli dell'FBI. Hanno cioè. Hobby internet potenziato. Esatto. Allora ciao, chapeau. Okay. Allora il tizio ti dà una manganellata. E quello che ha completamente. Quello che l'ha fatto male. Sai che è finita per lui. Ti ha missato malissimo, proprio tantissimo, cioè tipo... Così tanto che ha colpito Sceo. Io l'ho ucciso. Ok, tocca a me adesso, no? Gli è partito no, tutto. No, sarà tocca a Vez. Vez, il tuo clone è entrato adesso. nel magazzino. Okay. E dovrebbe tornare e dirmi cosa vede. Sì, non è lo stesso turno. Vabbè, quindi è finito il mio turno. Non lo so, dimmi tu cosa vuoi fare. Ok, io sento gli spari, eccetera. Tu senti gli spari, certo. E i colpi, senti gli ai. Uso di cazzo. Va, intanto mi risdoppio. Ok. E poi tocca a Katta. Lo taserò sto stronzo prima o poi. La difficoltà è 1 perché è a terra. Cioè in ginocchio. Non dirlo. Katta, uno non puoi non farlo, Zero. Proverà a parare. Comunque, 3. Allora, attenzione. Prova a schivare perché è più stronzo. E si è sparato una gamba. E si è spappolato la mano contro il busto di Katta. Te lo colpisci. Tira per la locazione. Oh. Di 8. Me la faccia, Katta. 7. Okay. Gamba destra. Quella già con un proiettile dentro. Quant'è che fa un D4? Un D4 per 20. 1. Quindi 20. 20 danni. E vedi che lui cade a terra. Arriva a 60. Alleluia. Alla gamba. E tocca a Arci. Oh, qualcuno mi ha missato e io ho fame. È brutta la sita, eh. E vabbè, provo la tattica spallata. Guardo Katta della serie. Guarda come si fa. Perché siccome io non ho messo che ho fatto box in questa scheda, io ho la stessa forza di mia sorella. Però invece la spallata posso usarla. Però posso usare mia sorella per colpire. La cioè, tu ne teoria, se tiri una spallata fai più male che a tirare un pugno. Sì. No, il male no. No, il male no. È male no. Però il dado sì. Perché non conto come arti marziali. Ah, ok. Quindi tipo, tu vedi lui combattere i pugni. Sei. Okay, l'hai colpito. Era quello che faceva un po' ridere. Tira i danni. È molto... No, adesso ti pischio. Sei col tipo presto perché dai, per colpire. Dai. Danneggio anche con la spallata? Perché no? Un D4 per 10. Ah, non ho mai danneggiato. Ho spalle, non ho paura di usarlo. Intanto gli urlo, non sai, ci sono infetto. 4. Ok, lo colpisci dove però? Alla faccia. Un D8. Eh no, tira il D8. Tira, sto scherzando. Faccia, eh? 1? Easy. 3. Al busto. Ok. E tocca a... Scio. Io capisco che la mia mente è messa a dura prova e quindi non posso più usare punti psiche, effettivamente. Dai, la pistola all'altro. Vieni, usa meglio di me. Ammazzali tutti, Scio, un attimo. Sono i complici. Se miro alle gambe. Ricordavo che dicesse, capisco che la mia mente non è buona, mi sparo in testa a capo. No, se miro alle gambe del tipo che sta lottando con Arpi è molto difficile secondo Scio, me tu guarda di sei. Tizio che stai cosa vai se potere considera per... che lui ha ancora una reazione per schivare. Scio, se devi sparare contro uno che sta combattendo con me fallo col superpotere. Non ho capito, e con la fatica. Ho detto che lui ha ancora una reazione per schivare. Ok, ma in termini di roleplaying secondo me è molto difficile, cioè sono tracciato per aumentare la linea di tiro, ce l'ho quello dico. So, ci sono lui e Arci praticamente a contatto, però. Sì. Ci provo. Lo so, la difficoltà è 3. Vabbè, io però uso il potere, ovviamente. Vabbè, che mi frega, puoi fare anche 1-1. Ok. Un dado ha fatto 1, ma l'altro ha fatto 6. Prova a schivare. Ah no, non ci arriverà mai. Vabbè. Colpito. Un D8 per 20. Ah, giusto, la gamba sempre destra, va bene. Ah, puoi scegliere tu? Ma mirato. È l'unico potere che ho. La gamba destra. È l'unico potere che ho. 4 per 20, 80. Ok. Vedi che la sua gamba non esplode, ma più o meno... Ma cosa... Domanda, prende un punto fatica? Credo di sì, prende un punto fatica. Quanti punti fatica hai? Adesso 2. devi fare una prova di fatica. Anche quindi lo comincio a mangiare dalla gamba io lui. Cioè, col disegno devo fare la gamba è separata, quindi sei. Ok. Tocca a il tizio. Tizio chi? Il tizio che Sceo ha colpito. Che rischi di avere disturbi psichici, cioè andare fuori di testa. Rega. Cosa c'è? Non so se forse gli conviene provare a alzarsi e provare ad andare su Sceo. Gli ha sparato una gamba che gli si è staccata dal corpo. Praticamente... si è staccata, gli ha fatto molto male. E si sta alzando, non so con cosa. Non è caduto, gli è tipo... Quello sparso. Ha usato il colpo, ma non è caduto. Allora, però siamo d'accordo che era un bipede, prima. Beh, gattona e colpisce Sceo con la gamba che si è staccata. Farà una prova di fisico. Ah, la usa come la gamba bastone. Che si è staccata è diventata un'arma. Farà una prova di fisico per vedere come si sente. E ha fatto 8. E poi cosa Dio? Mi sento rigenerato, si stacca la gamba. Di prendere un punto fatica, avvicinarsi a Sceo e spammargli una manganellata in faccia. Puoi prima provare a parare o schivare. Domanda è, io per parare posso usare il potere? No. Puoi usare un proiettile in fronte? Padre. No, perché è la mia. provo a pararlo. Ok. Beh, raga, c'è comunque sono degli zombie, secondo me abbiamo visto male noi. Quando mi fate osservare? 2. Hai visto il mio club? Ti colpisce a 8. Quindi alla gamba sinistra. Vabbè, le gambe no, sono le mie, c'è le stare. Cazzo, ha una gran mia. Ringrazio che non è la gamba destra. Ringrazio che non è la gamba destra. Che... stavo pensando anche. La testa? Destra. La testa destra. Ti fa 10 danni. Considerato che ho ancora 30 punti feriti al petto. Che cazzo è l'occasione extra? E lo fate con tutte sporche. Se ti crescono le ali, la coda. Il tizio torna a te e fa... ci sono due tizi. Uno è a terra, praticamente mezzo morto. E uno adesso si stava lanciando su Sceo, ma praticamente una gamba spopolata. Uno è più morto, ma è completamente in forma. Si sente bene. Nessuno di loro ha messo gli auricolari. Ok, potevi dire di dire al clone di metterci di dire. La struttura dei buttafuori morti non è adatta alle risse, okay. Ma loro non allora, lo sanno. Non fanno... buttafuori. Entrate, no, entrate gridando di mettere gli auricolari agli altri e bloccate il tizio in piedi. Sono due persone, due tiri di dado. Vai, Bez. Adesso si mettono a litigare fra di loro. Un 6 e un 2. Allora, uno dei due dice: io ho già fatto la mia parte, adesso vado in vacanza, dai. Quello dell'auricolare. Quello dell'auricolare. E quell'altro va verso l'interno. Ok. Ma l'altro posso provare dopo a riconvincerlo, in teoria? Sì, sì, sì. Ok. In vacanza, ci sto tornando l'altro. Cosa? Catta. Tesero quello che ha cercato di manganellare Sceo. Ok, quant'è la difficoltà? 6. Oh. Colpito dove? Hai capito. Questo era. Beh, la gamba sinistra che non c'è più. 8. La gamba sinistra, giusto. Beh, ragazzi, siamo feticisti, cioè ci siamo dalla cintura, cioè scorrettezza. Sono tutti lì. Sotto la cintura, tutti. 3 per 20. Ok, tocca a Arci. Gli vado addosso da dietro a quello lì col manganello. Spallata! Spallata! Arci usa spallata. Usa body slam. Stavo per dire io. Usa body slam. C'è un arci selvatico. Vabbè, sta morendo, cioè. Vabbè, se no, Salla, posso anche provare tipo a prenderlo. No, spallalo. Dietro e tirarlo giù. Spallalo. Spallalo. Puoi farlo. Spallalo. Tanto arriva il mio clone a bloccarlo. Spallalo. Vabbè, no, se scelgo dietro. Catta va a casa? Sì. Ci guarderà in diretta. Esatto. Salla, cosa devo tirare? Un D? 6. La valigia e chiamo un taxi per tornare. 5. Ok, l'hai preso. E poi? E poi lo voglio tirare giù a terra. Ok, allora... questa è una prova di lotta, quindi mi sa che sei in presa. Cioè, di lotta, Salla ha una gamba agonizzante, l'ho preso su, vabbè, da dietro. Cade giù. Come i negri. Cade giù. Ok. Ok, e... direi che siete fuori dall'iniziativa, perché lui praticamente è a terra, che okay. Sotto tiro e non farà niente. E a un certo punto sentite... la voce di Vez, entra un Vez nudo, completamente nudo. Spara. Metti gli auricolari. No, che dito, però. Fa, mettete gli auricolari. E poi se ne va. Vabbè, a tu le mie clodi mi metto l'auricolare, Vez, potete entrare. Io dico giusto gli auricolari, pronto Vez, da posto. Che mi fa là fuori. Io metto l'auricolare, Vez, potete entrare. Ok, ma okay. Qual è la nostra missione? Poi comunque mi inventariare è il mio che ci muoviamo, perché qua secondo me la gente comunque sta degli spari. Ma è esatto, è quello che io stavo pensando, non tanto la sicurezza, la gente normale che ha sentito gli spari, quindi può, ecco, non è, è una zona disabitata, però non si sa mai. Beh, però degli spari, anche solo uno che passa in macchina, anche a voi, però magari in metti caso che qualcuno l'abbia scambiato per dei petardi. Senza offesa, ma io sarò una brutta persona, ma se passo e sento una spara. Però magari avverti la polizia. Sì, no, quello 113 dice ho sentito degli spari e poi te ne vai senza fermarti. Sì, no. Forse magari senti tre segnalazioni anonime e allora dici boh, mando una pattuglia. Sì, non è che poi sono quelle addestrate. Sì. Allora, magari uno è passato e ha visto un cretta, buon viaggio. Divertiti in Giappone. No, buon Natale. Anche alla mia sushi, grazie mille. Cosa si può portare dal Giappone? Non so, una balena. Delle radiazioni. Un Maniroso in giapponese. Ok, che c'è la brand? No. Non credo, è un gioco italiano. Beh, no, non hanno tradotto. È tradotto in italiano e in inglese. Il gioco italiano tradotto in italiano. Beh, questo è un buon inizio. Beh, perché ha scritto Napoli. Guarda che mi sa che in verità è uscito prima in America. Ah, sì? Sa di sì. Ah, potrebbe essere. Va bene. Ciao Cattina. Ciao Cattina. Ciao Cattina. Ci vediamo con l'anno nuovo. Con Star Wars. Non fatemi uccidere, dai. Visto che andiamo al Giappo, probabilmente, non ti ammazzare di Giappo. Ciao Cattina. Adesso che vai in Giappone. Prendi le pizze, capito? Allora. Vi eravamo rimasti? Allora, ah, sì. I tizi sono a terra. Inveiamo sui corpi. No, calma. Allora. Inveiamo. Io per l'auricolare dico, Vez, potete entrare, io comunque terrei comunque Giulio come palo. Sì, e qualcuno è ferito. Sì, Giulio, d'accordo. Qualcuno è ferito, sì. Beh, insomma, sicuramente... Cioè, no. Io... Ah, Salla, io comunque, quando la situazione è sotto controllo... In realtà, sì. Quando la situazione è sotto controllo, l'altra volta ancora. Cerco di, cioè, se sono compiacenti, ovviamente, se non mi ce l'hanno con me, qualcuno è ferito, provare a bloccare un minimo la ferita, sì, delle guardie. Catta prende un bel colpo al petto. Medicina. Mandatelo qua se cammina. Devo tirare un D6? Non lo so, io. Sì. 2. Vabbè, sei in posto. E per l'altra? Salato, no. 3. Ok, entrambe ti sembra di aver fatto un buon lavoro, nel senso che il proiettile è uscito e non so se perderanno la gamba, ma comunque gli dico i proiettili. Sì. Sì. No, ho cercato di fermare l'emorragia dei due tizi. Certo, cioè, stai mangiando. Gli ha operati. Non gli ha operati, ho semplicemente cercato di fasciare e di evitare che a hobby. A hobby primario di medicina. Gli dico che se non, se ci lasciano fare quello che dobbiamo fare, chiameremo in fretta un'ambulanza. Se non fosse. Che ha aperto la porta quando arriva lo spiffero. Se non fosse Fredino. Cosa c'è? Ci piace la location. In realtà sì, potremmo anche. In realtà qua si chiude la porta e si lasciano. È chiusa anche qua. No, in realtà basterebbe portarci una stufina. Sì, sì. Io ce l'avevo anche, solo che. Non me ne frega nulla. Guarda, mi chiama che corte sto stronzo, che congeliamo. Hai lanciato sto freddo. Io vi dico solo che qua oggi erano 20 gradi. Sì, che spettacolo. Va bene, ascolta, facciamo così. La tizia con me non voleva andare fuori a mangiare al sole perché, poverina, il sole le fa male. Sì. Se non fosse africana. Sì, vedrò. Va bene, Archie. Non ce la faccio, troppi ricordi. Vabbè, io spengo le luci, mi avvicino alla strada. Ah, quello dico a Vez e a... No, Giulio, facciamo così. Vez, c'era un toclone nudo in giro. Vai, esatto, no. Facciamo Giulio, poi dico io. Possiamo continuare a seguire l'iniziativa, così non ci incartiamo. Esatto. Molto più semplice. Va bene. Almeno giusto per capire cosa condizioni abbiamo. Ah, io, non so. Perfetto. Passa il turno. Comunque Salla, io... visto che avevo... Scusa un secondo, visto che avevo... Allora, abbiamo detto che seguiamo il turno. Tu sei. Facciamo l'iniziativa però al contrario. No, ho fatto 6 iniziative. Sì, e l'ho già fatto il mio turno, solo che siccome non l'ho finito. Vabbè, dai, prima Arci, facciamo così. Ho detto Salla, siccome sto lì con i due tizi, la facciamo così a mentre li curo, dico a Vez e agli altri se possono fare l'inventario. E io sto dietro i due tizi, e poi dopo chiamerei l'ambulanza a fine di tutto. Fine. Okay. Io invece volevo dietro organizzare la situazione, l'inventario. Un secondo, ci organizziamo. Io vi ricordo che vi hanno visto in faccia. Uno faccia il palo in macchina, uno faccia il palo alla porta e gli altri tre fanno l'inventario. Catta propone di fare il palo alla porta. Io propongo Giulio con la macchina accesa. Ti pagherò il carburante. Catta alla porta che fa il palo e noi tre intanto dentro a fare l'inventario. Tu è il mio turno. Lo sono ancora dentro io, c'è questo piccolo problema. Sta parlando di Oricola. Ah, ok. Vezzo, allora non mi toccare. Vez, tu scrivi e intanto io e Archie ti elenchiamo cosa c'è qua dentro. Aspettate, rega, ma Catta non è tipo ferito. Catta fa il palo alla... ma ha preso un pugno al petto. Ah, sono messo peggio io. Sì, però rega, c'è il problema dei tizi. Vabbè, ok, facciamo intanto sto inventario. Facciamo l'inventario e ce ne andiamo a gambe. Questo è il piano. Ok. Tanto non possiamo nascondere i cadaveri, non è che... No, aspetta. Vabbè, non abbiamo le cose dietro, però. Vai, per fare una sorta di pozione. Fammi l'inventario, dai. Scorda memoria. Io e Arci ravaniamo nei cartoni, giriamo e cominciamo a vedere cosa c'è. Pezza, ha preso carta e penna. Cosa io e Arci? Io sono... Oh, regala, ve l'hanno detto che sono lì con i tizi. Allora, Catta e Sceo. Ci metterai. Da quanto ho capito non è che ho fermato l'emorragia instant e posso andare a giocare a... No, sì. Ci metti un po', tipo un 5-10 minuti. Allora, io nel frattempo guardo con Vezzo... Beh, comunque sto lì per vedere che non crepino. E... Io mi avvicino alla strada principale. Noi siamo in una viuzza, no? Mi metto in un lato, spento. Se ti allontani da noi. E guardo che non arrivi polizia o altro. È perché se sto lì davanti a voi, ce ne arriva. Allora, io faccio una cosa... E recupero i calzini, il passamontagna e l'auricolare. E fanno lavatrice. No, vabbè, cerchi anche di tracciare l'altra. E rega, possiamo fare questo inventario? Facciamo l'inventario. Okay, adesso cominciamo a ravanare. Noi avevamo anche un numero da chiamare nel caso. Possiamo mandare un messaggio. Perché c'è il problema che si... Qua infatti chiediamo cosa ne pensano i boss. Esatto, intanto magari Aci manda un messaggio e digli se possono essere smemoriti, cioè cosa dobbiamo fare con questi tizi qua. Gli scrivo al tizio Salla che mi aveva mandato il messaggio del... Chiamano. Ti ricordo. Però possiamo scrivere. Erano quei numeri a cazzo che non rispondevano. Però possiamo mandare un messaggio. Mando un messaggio, scrivendo che le guardie, a guardia del capannone, le abbiamo disarmate, ma ci hanno visto in faccia, ci hanno riconosciuto. Mm-hmm. Sono immobilizzate, chiedo come dobbiamo agire. Ok, quanto tempo perdete per guardare in giro? 29 persone hanno visto questo posto. Noi dobbiamo, ci hanno detto di fare l'inventario. Diretta. Ok. Mm-hmm. Io apro lo scatolone che è più vicino a me. No. 65. Quanto tempo volete perdere a cercare in giro? Dipende che cosa vediamo. In base a quello che vedo decido. Facciamo abbastanza in fretta, Digno. Se devo fare l'inventario di quello che c'è, ma non ho ancora capito cosa c'è, non so cosa scrivere su un pezzo di carta. Quanto è grande questo posto? Molto grande. Allora, il posto è abbastanza grande, gli scatoloni sono parecchi. Non posso fare l'inventario dicendo c'erano 15 scatoloni, ce ne ridono in faccia, dovrò almeno capire un paio di scatoloni. I primi scatoloni che apri ti sembra che contengano mattoni e materiali di costruzione. A un certo punto vi chiamo all'auricolare. Scusate, ma appunto, cosa contiene il... Io dico, ho aperto un paio di scatoloni e c'è materiale edilizio. Beh, strano che due guardie armate facessero... La guardia. Riesco ad aprire. Ho una chiave, un pezzo di ferro, un qualunque cosa che mi permetta di tagliare il cartone da un lato in modo che possa vedere. Non potete interrogare uno dei due. I tizi sono svenuti. Non lo so. Sala, mentre sono lì con i due tizi, mentre io gli faccio le varie cose, loro cosa. Cioè, parlano. Quello teserato è svenuto, quell'altro no. Però si sta guardando la gamba preoccupato. Ok. Intanto io ci parlo allora. Provaci. Io provo a rompere la parte bassa di un cartone per vedere se il fondo contiene cose diverse da quello che si vede in alto quando lo apri. Capisci cosa intendo? Fondo più fondo, insomma. Sì, però non mi avete detto. Vabbè, ok. Almeno un'ora. Finché non arriva la polizia. Cerchiamo di fare. Non ci mettiamo. Se uno mi dice almeno un'ora e uno mi dice cerchiamo di fare in fretta. Allora, il tempo non so cosa ci mettiamo per dire che non stiamo lì troppo in modo troppo preciso. Il discorso è che finché non contiamo i mattoni delle scatole, ma cerchiamo di essere un po' sommari. Per fare un inventario ci si dovrà, in verità, fatto bene, ci si dovrà impiegare svariate ore. Tu in un'ora guardi tutti gli scatoloni. Sì, ad occhio, quello che dico io è che un'ora non è abbastanza in fretta. Non so se vi è chiaro. Noi cerchiamo abbastanza in fretta vuol dire apro un paio di scatoloni, guardo un po' in giro e vado via. Vabbè, comunque cerchiamo di guardare. Finché Giulio non ci dice. Sarà tra i 20 secondi e l'un'ora c'è una via di mezzo. Comunque proviamo. Guarda che sono tante, grande. Mezz'ora. Sommariamente quanti sono gli scatoloni? Ma saranno una trentina. Bene, sono 15 scatoloni a testa. Da aprire ci mettiamo pochi minuti, almeno a prima vista, giusto? Quindi per il momento pochi minuti apriamo. Sì, però alcuni sono da spostare, altri sono da girare. Bene, tu vedi usare anche un quarto d'ora. Pensavo fossero molti di più. Tutti, un minuto a cartone. Io provo anche a usare i cloni, vediamo se funziona. Ecco, lui usa anche i cloni, quindi ci mettiamo ad aprire 6-7 scatoloni. Perdete tutti un punto fatica, tranne Arci se sta ancora medicando e interrogando, e tranne Giulio. E Katta. Solo io e Vezzi in pratica. Solo tu e Vezzi in pratica. Perché Katta? Katta è al palo. È sulla porta. Siete in due a cercare, giusto? Carta sul palo. Abbiamo già giù. Effettivamente se usare i cloni devi fare un tiro di controllo. Sta sulla porta a guardare fuori, sono passanti, arriva incuriosito. Cosa ti faccio? Due tiri di controllo? Quattro tiri di controllo? Due tiri. Allora, uno è un 6 e l'altro è un 2. Uno c'è io. Ok, uno ti aiuta e perdi un altro punto fatica. E mi dovete fare una prova di fatica. Ma devo quindi tirare e sommare la fatica che ho? No, no, dovete tirare e fare di più della fatica. Io ho fatto 3, che è la mia fatica. Io ho fatto 5, quindi va bene. Sì, va bene. Ok. Intanto che medico la guardia e dico cosa ci fa un posto come te in una ragazza come te? E gli dico c'erano siete armati così per difendere un capannone a Borgo Panigale? Noi siamo sicurezza privata. Siamo stati assoldati per fare la guardia qua. Quindi non sapete niente di quello che, a cui fate la guardia? No. E, intanto lo medico, quindi gli faccio... Cioè... Venga, la pulla! E, c'è una sirena qua sotto. Gli chiedo chi li ha soldati. Non lo sappiamo, è una società privata. Ok. E gli chiedo in maniera un po' così, dico, immagino che voi non possiate chiudere un occhio su quello che è successo e andare semplicemente in ospedale. No, in ospedale. Controllo anche il cellulare, Salla, se mi ha risposto. Mi sono trovato con due bicchieri. Ok. E intanto voi che cercate? Trovate altri materiali, anche lastre di metalli, e trovate altri mattoni, trovate delle assi di legno e direi basta. La mossa del tagliare il fondo di un cartone. Mi fate una prova di cercare, tutti e due. Date anche dare un'occhiata nel posso gabbiotto. Farlo anche per il mio clone? No. Io ho fatto 4. 3. Ok. Il gabbiotto dei due tizi. Eh? Andate anche a dare un'occhiata nel gabbiotto. Puoi arrivo. Farlo anche tu, eh? Vabbè, c'hai due tossoli col tizio. Ti arriva la risposta, Arci. E se volete uccideteli, altrimenti lasciateli lì o addormentateli, neutralizzateli, veniamo a prendere noi. Okay. Lo dico poi anche a loro. Ovviamente non lo dico al tizio lì che lo sto medicando, gli dico... Siamo usciti. Sì, corro verso la stanzotta là dove c'era la luce, insomma, l'ultima cosa rimasta da vedere. Vabbè, Salla, se la situazione è easy e ho letto il messaggio, vado a dare una mano a lui. Non l'hai bloccato però lui. No, non l'ho bloccato cosa? Non è legato al tizio. Neutralizza. Allora no, allora sto lì. Tu neutralizzi. Sto di neutralizzalo. Fai svenire. Gli tiro una manganellata nella nuca. Cosa? Perché rischio di ammazzarlo. Una manganellata. No, vabbè, piuttosto prendo un il taser, lo fa svenire, no? Con una manganellata nella nuca, no? Dovresti... Sì, farlo svenire. E non lo uccide per forza il taser? No, è molto più crudele. Per forza, beh, dipende da quanto gli lo rendi molto più crudele usare il taser finché non sviene. Come fai a colpire, uno con un manganello in testa essendo sicuro di farlo svenire ma non di fargli un trauma cranico? Vabbè, un trauma cranico comunque. Il taser sei più sicuro di non uccidere. Non è così grave. Col taser sei sicuro di non uccidere. Ma se rischi di darci un po' troppo forte gli spacchi il cranio? Ma con un manganello. Madonna! Attento! Però deve svenire. Vabbè. Cioè, io non so, guardi, io preferisco usare il taser per non rischiare. Oh, ok. Sarà lo crudele, però. Nel gabbiato non trovi niente. A un certo punto sentite ehi, Andrea Giacomo, vieni qua. Chi sta dicendo questo? Il clone. Sì, vado lì. E vedi che lui sta vedi che lui ha smosso un po' lo scatolone. E vedi che sotto il cemento è tipo c'è una fessura, come se fosse una sorta di botola. Sotto lo scatolone? Sì. E poi vedi che lui scompare. Beh, molto bravo, ma te lo direi, ma sei scomparso. Vabbè, e rega c'è una sorta di botola qua, forse era per questo che siamo stati. Ora che sono svenuti io devo dare una mano a loro, vezze esce. Però sposto lo scatolone. Ok, spostate lo scatolone. E c'è in effetti una botola. Ok. La apriamo. Giusto? Sì. Apriamo. Allora, prima di abbiamo trovato la botola, posso tornare indietro. Propongo una cosa, potremmo far entrare Katta, chiudere la porta, lasciare solo lui come unico palo che vede all'esterno, però almeno siamo scusate, visto che Katta non c'è. No, va bene così, va bene così. Ok, scusa, hai ragione. I due tizi sono svenuti. Cioè, siamo io vi dico, visto che Katta non c'è, fate entrare Giulio e lasciate Katta fuori. Giulio in macchina. E Katta in macchina. Ma noi Giulio, boh, non so. No, è che non c'è bisogno di personale adesso, no? c'è chi è. Non è che state facendo questa cosa. Non so cosa c'è giù. Vabbè, intanto apriamo la botola. Vabbè, comunque Katta è ferito. Due cose. Apriamo la botola. Ok. Aprite la botola. Allora Katta, sì. Ciao ragazzi, come va? Finalmente. Aprite la botola e brucia, c'è una scala con le luci che si accendono, che va verso il basso. Ok, scendiamo la scala. Anche Giulio scende. Tu, tanto, no, tu sei armato, no? No, la Katta è venuta in macchina. Scendiamo circospetti, Sceva la pistola e io ho il taser. Sto davanti io con la pistola puntata. Così. Una puntata prima la mia tempia mai avanti. Vabbè, allora io per il momento rimango sulla scala. Per sicurezza io legherei i tizi, anche se sono inutili. Va bene, con cosa? Con le corde con rampino. Sì. Abbiamo la corda. Sì, sommergili di scatole di mattoni. Allora te la passo prima di scendere. Di assi di mi sembra crudele quello. gli faccio, li leggo... Del nostro adesivo, avremo del nostro adesivo anche solo della scorta. Vabbè, la corda di attività. La corda. Corda. Abbiamo due corde con rampini al posto di usare le cose. Adesso ho il rampino. Tante telecine di nostro adesivo, c'era un intertono. Devi legare i piedi col rampino qua. Sì, nella spalla, tipo macelleria. Esatto. Giulio si ferma a legare con le corde dei rampini due tizi e noi tre scendiamo intanto. Io davanti. Tutti tre scendete? Scendo davanti dietro tutti quanti. Siamo in quattro, aspetta. Io sto su. Quando finito, Ben sta un po' a metà scala. Tipo. Quando ho finito di legare, scendo. Quindi scendono Sceo, Arci, Giulio e Vez su. Ma ci siamo chiusi dentro, non ho capito. Sì, più o meno sì. O ci chiudiamo dentro o uno rimane su. Rimani su, uno può rimanere alla porta, fa da palo. Secondo me. C'è Katta fuori. Katta in macchina. Katta in macchina. Beh, fuori comunque, la vede lo stesso a porta. Scusa, chiudo semplicemente la porta senza chiuderci dentro. Chiudiamo la porta e scendiamo. Giusto perché così la gente. Chi scende, però. Andiamo tutti, che magari arriva uno e chiude la porta, capito quello di te? Io sono su che intanto leggo i corpi, quindi voi scenderete qualche minuto prima di me. Sì, ma Vess resta un po' più su, un po' a metà strada, tipo sulla botola, per tenere anche d'occhio lì dal pianerottolo. Intanto io sto su per il momento. Dai. Quindi scendono Sceo con la pistola e io ho il taser. Katta ha passato il taser a Giulio mentre si sono cambiati. Ok. Arrivati sotto alla fine della scala, sentite clic e mi fate un tiro di schivare. Boom! Una tipo mina, non lo so. L'hai visto Mine per caso? Schivare quindi. Vabbè, schivare. Sei! Ed è fatto uno. Raga, sta sessione è andata solo degli uno io. Allora, scegli con i tuoi super riflessi, riesci a buttarti mentre Arci vieni completamente avvolto da una fiammata. Dai, forza. Che ti colpisce due locazioni. Arriva da dietro la fiammata. A mia scelta? No, devi tirare un bel dado. Arriva da un cellulare la fiammata. Sapevo che Giulio faceva del dado. Okay. Avrei... Di 8, giusto? Perché okay, tipo io mi giro e uno torna in macchina. 2. Minchia. No, è busto. Vabbè, busto. Vabbè, senti da me. 3, busto. Bene, forse insomma. O no. Forse si muore. Ma ci muore sta sessione. Se preso me, avessi preso tutti. Aspetta, che sono 90 danni. No, vabbè, dai. No, vabbè, ero full. Cioè, gli ha preso tutti i pettorali. Gusto anche da 50, quindi vai a casa. Sì. Sì. Sono bella, 30, quindi andiamo tranquilli. Ha delle belle ustioni. Hai una bella ustione sulla schiena. Vabbè, no, dai. I miei dorsali! Facciamo tipo giocatore di basket. No, no, dammi... Una... Beh, io questa cosa la vedo. Vita. Cioè, vedo la fiammata. Beh, sì, anch'io la vedo. Fa caldo qua, vedi? Porca puttana. Prendo fuori il ventaglio. Dico. Arci dietro i tuoi vestiti sono completamente bruciati. Dai. Allora. Pensavo che la mia schiena avesse preso fuoco con i vestiti sopra perfetti. Quando mi sei preso un attimo colore. Io chiedo ad Arci se tutto a posto e in auricolare dico tipo agli altri: una fiammata ha nel sotterraneo ha inondato Arci. Sotto le risate di Scea. No, direi che adesso, cioè, ovviamente sto male, no? Vi guardate intorno, sì, tu stai abbastanza male, molto male. Sto male. Io dopo che ho legato i tizi cerco una cassetta del pronto soccorso da qualche parte, magari. Ok, e la trovi nel gabbiotto dei cosi. Io ovviamente lo seguo, e vado a vedere anch'io. Anche se in realtà, cioè, immagino che tu stai soffrendo, bisogna fare abbastanza fast e io devo chiedere aiuto ai tizi lì, ai nostri boss. Ai clodi. Vabbè, io non so, ti disinfetterò la schiena. Direi che a livello di disinfezione ci ha già pensato la fiammata. Okay. No, per evitare che la carne sia sì, la caratterizzata. Oh, se no, Marci. Veloce che chiudo dopo. Sceo, ti guardi attorno sì. E vedi che la sala non è grandissima. Oltre alla fiammata, e ci sono due. Hai presente Dragon Ball? Le camere dove recuperi. Dove recuperano tipo le energie, tipo le vasche, quelle cilindri. Sì, okay, ci sono capitolo. Due di quelli spenti, vuoti, e in fondo c'è un computer. Sì. In fondo c'è un computer. Ok, è illuminato qua. Sì. Fate delle foto alla zona. Sì, allora. Sì. Come prima cosa, ogni passo guardo bene dove metto il piede. Perché non mi piace la puzza di strinato. Io okay. Essendo molto... Sembra che ci sia stata solo quella trappola. Ok. Ottimo. Allora, mi avvicino al computer. È acceso? Il computer è acceso, sì. E cosa vedo? Vabbè, tipo quella in cui mettono Luke nell'impero sì. Colpisce ancora. Esatto. Password. Ok. Vedo quante cifre servono. E 6. Ok. B-O-S-I. No. Ok. Mi giro verso Giulio. Di loro e uno. Ragazzi, qui c'è un computer, ma serve una password. Io sono salito. Vabbè, abbiamo tutti l'auricolare. Brucio! No, dico, Sceo, fai delle foto e andiamo via di qua. Faccio la foto al computer al posto, esatto, e le mando a Thunderwave Park, così vi arrivano intanto se volete vedere. Sì, sì, arrivano anche questo posto. Intanto... E vi dico, ma se parlo forte mi sentono loro. Da sotto? Io sì. Non è la... Vabbè, abbiamo il canale, sì. E dico, ragazzi, qui ci sono due capsule, gliele descrivo un po' e poi gli dico che avrei anche mandato una foto. E dico, come quelle di Luke. Esatto. E poi c'è il computer e servirebbe la password a 6 cifre. Io intanto piangendo dico a Giulio portami la macchina e di che facciamo delle foto e andiamo via. Beh, sto bruciando, cioè. Beh, magari ci sono delle penne. Io la provo. Ho capito, adesso non so in realtà quanto... Salla. Io non capisco se devo immedesimarmi come se avessi la schiena davvero stonata, quindi bestemmiare, oppure che 60 su 150 in realtà è grave, ma non così tanto. Come devo considerarla? La cazzo di schiena e deve essere un schiodo. Immagino così, mi immagino come se fosse azzecca. Non è grave nel senso che sei a rischio di morte, però fa un male cane. Senso, ti brucerà molto, avrai qualche ustione di terzo grado, non è che tutta la schiena è carbonizzata. Io provo a digitare qui. Cioè, non è pericolo di vita, non di disidratazione, però ti fa un male porco. Come se fosse ustionato in spiaggia, però molto molto pesante. Con le buste. Sì. Solo che magari al posto che tutta la schiena... È come solo... Giulio che fa il bagno perché è ustionato in spiaggia. Esatto. È la mia ustione in spiaggia. Io digito Heroes sul suggerimento di Vez. Tu digiti Heroes? Esplode. Non si sblocca. Anche se aveva pensato che fosse però, però era buona l'idea, mi piace, ti darò un punto esperienza. Qualcun altro ha qualche idea? Io andrei via. Cioè fare delle grandi foto. Fare delle grandi foto. Sono curioso. Magari nel senso che non ha senso mettersi a provare. L'unico è Katta. Vabbè, tanto Prova con non lo so, Kata mi suggerisce qualcosa a livello di hacking. No, Kata non, mettere una password. Kata non è qui. No. Sì. Vabbè, capito, però. No, vabbè, non so. Qual era il titolo della sessione? Il prezzo dell'evoluzione. Non lo so, qualcuno di voi il ha prezzo. Ma non possiamo sapere. Qualcuno di voi ha qualche idea? Sei i caratteri? No, sei caratteri, può essere qualsiasi cosa. Certo, ma sai quante sono le combinazioni? A parte questo, c'è altre cose. Io consiglio via Vets. No, passo. Io ti consiglio via microfono scritto mutate. Eh beh, lui è lì. Prova. Provo anche questa. Mi piace, va bene. Il computer si sblocca. Cioè, mi piace, va bene, vuol dire che non... è la password. Sì, no, vuol dire che ci stavi trollando di brutto. Tipo la più simpatica. Non ho pensato a una password. Quindi ci stavi trollando, esatto, era proprio questo che intendevo. Beh, se aveste avuto delle idee particolarmente simpatiche, sì. Tipo, cosa mi piaceva Heroes, però era molto scontato. Beh, è rientrato sbloccato. Quindi con Mutate hai dominato. Peccato che Claudia sia 7 lettere, ma va bene. Infatti anche io avevo pensato a Claudia, però è 7 lettere. Chiamate Claudia, no? Ah, chiamate. È simpatico Giulio. Che cazzo vuoi? Sta litigando. È un brutto momento. Vabbè, è inutile che fai il gonfio dall'altra parte dello schermo. Ho già chiamato la Miki. Fai le valigie. Ora ci penserai a te. Quanti cazzo di audio avete mandato? Raga, chiudiamo che ho suono. No, poi guardi sempre il cellulare, guardalo questa volta, cazzo. Allora, il computer si sblocca. Sheo, trovi diversi file. Un progetto che si chiama Progetto Mutate. Ogni pagina che vedo te lo dice. Il messaggio ti fa pagare. Capito, Salla? Aspetta che sono gli avvocati. Ogni pagina che vedo cerco di fare una foto. Sì, per stasera può usarla. Tra l'altro minuscola, maiuscola, qualche altra maiuscola, qualche minuscola. Sono tutte maiuscole. O giochi o fai le valigie, Senti, è il tuo. Cata, è inutile che fai il gonfio dall'altra parte dello schermo, ho già chiamato la Miki, ora ci pensa niente. Hai capito cosa fa gli audio insieme? C'è anche foto, fate che vedo. Ok, ma... progetti di... Allora, il progetto mostra, diciamo, i piani di costruzione delle vasche che hai di fianco. Ok. E in più ci sono diversi dati su pazienti. E pazienti di diverse età, diversi lavori, eccetera. Nella testata di questo il nome di un dottore, il nome di qualcuno. Non c'è niente quello. Di quello. Okay. Cazzo, c'è questo l'archivio. E quell'altra cosa, è tutti quei pazienti segnati, sotto è scritto deceduto. Okay. C'è le foto. Da quello che ti sembra di capire, il progetto si basava su, cioè, il cercare di utilizzare diversi stimoli per far nascere poteri sulle persone. Salla, il computer è fisso o un portatile? Fisso. Ma anche se è fisso, è collegato tutto a una rete o è solo collegato alla... Non è che pesi tanto. Chi se ne frega, raga, prendete il cassone. Più che un computer è un terminale. Tipo il terminale delle vasche. Beh, però il cassone tipo quello dei computer si può prendere via, no? Che se io prendo il computer mi porto quello di file che ce l'ho detto. Non c'è la memoria fisica. Se tu sapessi smontarlo e trovarla all'interno, sì. Io no, però chiedo loro. Beh, abbiamo le tese accessori. Io... Vabbè. Vabbè, tipo Zulanda, li fai solo qui dentro. No, prendi solamente il pezzo che ti serve, che se ne frega. Io me lo sono montato un computer, però... Sì, però non è lo stesso tipo di... Ma cioè, se prendo tutto il terminale... Esatto. In che senso? Se prendo il terminale è qualcosa abbastanza grande, è tipo un tavolo. Ah, ok. Puoi aprirlo, guardare dentro, se trovi dove pensi che sia la memoria, e poi toglierlo. diciamo, senza pesa per gli altri, quello che secondo me ne capisce di più al volo Giulio, e gli chiedo consiglio. Catta o Binter? Va bene, ci chiamo, Giulio è sopra, quindi va tutto giù. Chiamo Giulio e gli dico, secondo te? Provo a vedere se c'è qualcosa da aprire, se ci capisco qualcosa. Aprire si apre, poi metti in mente. Vediamo se c'è una memoria fisica. Cioè, ci sarà sicuramente, se individuo qual è. In teoria non dovrebbe essere troppo difficile, a meno che non sia qualcosa per riguardo. Abbiamo fatto le foto intanto, sì. Io le schermate che vedevo facevo anche foto. Sei. Ha fatto 6. Ok, trovi quella che ti pare la memoria fisica. È un po' diversa rispetto a un hard disk normale che trovi, nel senso che ha il rivestimento che non hai mai visto, il cavo di dati. Però la scritta memoria fisica mi sembra abbastanza non sono sicuro, cioè, memoria fisica è una freccia enorme tipo il cavo dati è rivestito, oh, sì. Quindi non l'avevi notato subito, cioè, scio che però ti pare sia quello Giulio. Sentiamo Giulio cosa dice. Dovrebbe essere questa la memoria fisica. Staccarla così e andarcene, la rovina, dobbiamo spegnere. Se spegniamo, no, spegno. Prima. Okay, no, direi su rimozione sicura dell'hardware. Spengo il terminale. No, poi in teoria sarebbe meglio anche staccare la corrente. No? Spengo il terminale, si stacco la corrente e poi lascio che lui disconnette. Ok, lo staccate e lo portate. È abbastanza grande, tipo qualcosa di grande così. Vai via, sì, via come il vento. Dico agli altri, abbiamo preso la memoria del computer, qua ci sono tutti i dati, ora direi che ci conviene andare qui. Sì, sì, non c'è più niente di interessante. Oh, prendiamoci sti cazzo di pistole. Ovviamente faccio foto anche alle capsule. Una, prima di venire. Prendiamoci qui. Cazzo di manganelli anche. Tanto col cellulare faccio foto a cazzo, raffi. Finalmente ci facciamo un po' di equipaggiamento. No, prendete. Se potete prendere il manganello, il tirapugni e una pistola. La pistola ha 20 proiettili ancora. Allora ce l'ho già io. Tutto. 20 proiettili segna. Ok. E una cosa. Segnartelo, perché sennò è un casino. Sì, sì, sì. Lo sto già segnando. Una cosa sulla scrivania. Cioè, dove io che sono danneggiato, adesso non prenderò niente. Poi ci risparmiamo. Sì, okay. Okay. Siamo nel bottino. Quindi che dove lo scrivo? Armi. Ah, qua sotto. Scusa. Armi, scrivo semplicemente pistola. Sì. Ah, se pistola semiautomatica. Per ora ce l'ho io. No, no, ha senso che c'è. È la super mia, è giusto da bene. Poi tu sei già sverginato con le precisioni. L'ho scritto perché per ora c'è. Hai anche probabilmente causato l'amputazione di due arti. Magari che se riescono di ucciderlo, gli chiederemo scio di farlo. Allora, io chiuderei qua. Io direi per dire. Io devo andare a lavorare con due punti di psiche. Sì. Sì. Mi fa un caffè per il gioco. No, però è tipo dice, cosa ha detto? Perché una pistola no, 20 proiettili, faccia di merda. Si faccia lei che tu. Va bene. Per il gioco darei 4 pix a tutti. Ci sta. Direi che ci siamo comportati tutti abbastanza bene, ma non troppo. Ah, danne uno in più a Vez per la parola, io lo sai detto. L'hai detto. Verrà anche darci per mutei. Per il gioco do un 4 pix a tutti. Poi. Arci 1, 2. L'interpretazione adesso che vedi. Un combattimento da. 2 ad Arci. Comunque l'interpretazione è più importante che in combattimento. Più un punto abilità medicina. Quindi 6 totali? Sì. Vez 1, 2 Vez, Giulio metti più 1, aspetta, più 2 a Giulio perché hai cacciato Ema dalla macchina, mi è piaciuto. Catta ha un punto esperienza in scassinare, però non c'è. Vabbè. Lo segno se vuoi. Segna. No. E ne ha due anche. No, ne ha uno solo di interpretazione. Quindi scusa, sei, no, cosa ha avuto? 6 punti? 5 punti. 5 più 1 all'abilità. Sceo, metti più 1 pistole, armi. Sì. No, quindi ho capito, 5 punti esperienza catta più 1 in un punto abilità di scassinare. Io devo dietro. Ah, ok. Ah, è vero, io ho anche arma improvvisata. Ci metti un punto abilità armi pistola e anche tu 5 pix. Quindi uno di interpretazione. Sì. E qui glielo devo mettere. Solo uno. Solo uno. C'è quello che ha trovato il computer, schivato le fiamme per raggiungerlo, sbloccato tutto. Solo uno. Conoscenze. Secondo me il chiaro protagonista della sessione di oggi, solo uno. Secondo me, scendo più ti lamenti, più probabile che scenda a zero. C'è quello che se non ci fosse stato sarebbero morti tutti, solo uno. No, no, aspetta, Scio, mettine uno in più per la telecamera. Oh, hai visto? Ah. E uno in, e due in meno per rompere le palle. Ah, esatto. Ah, uno in più per la telecamera? Beh, vabbè, ma quello è gioco, non è... Ecco, quindi anch'io devo mettere tanto uno. Sì, praticamente io ho segnato un punto in più a Giulio perché ha trattato male Ema e questo merita sempre un premio. Arci per aver speso i soldi all'inizio. Cosa c'è scritto punti in vita? E poi Arci, Vez e Sceo per lustrazione, Catta per il bagaglio delle unghie, Vez il giochino dei cloni e un punto esperienza in più. Al posto di mettere uno, quelle che sono uscito dalla macchina, lo metti qui un punto e in poi più uno Giulio per aver legato le guardie, per essersi ricordato almeno. Ah, quindi più però due. Potrei dire una cosa: in questo gioco c'è una cosa che è anticostituzionale. Dimmi. I punti psiche si recuperano quando si hanno 24 giorni, 24 ore di nulla facenza. Mm-hmm. Chi non è disoccupato non li avrà mai. La domenica, sabato e domenica. Sì, ma Sceo, tu aspetti che arrivi tipo al giorno di paga? Adesso dico. Cosa? Il mio giorno di paga è il 10 del mese. Cioè, considera che tu il 10 del mese avrai... 1150 se vuoi una media. No. Perché però tolgo un po' di spese così. Ah, io non ho... Ah, sì, vabbè. Me ne frego. Togli spese, tipo, niente. Cioè, è ovvio come tutti nella vita. Tu, fa conto tu, Sceo, prenderai tipo 900 euro. Beh, in realtà è tanto, sì. E Giulio ne prenderà tipo 300. 300. E ci dovrà mettere anche la benzina della macchina appena... È anche Vezzino, eh. Anche Vezzino questo mese. Vezzino anche un po' di più. Tagli di 20 euro, giù. Di solito sono 30 euro per il carburante al mese. Io cosa ho cosa svantaggiato. Vezzino prende... Cosa? Ah, il contratto di lavoro svantaggiato. Si prenderà tipo un 350 e Arci prenderà un 500 euro. E anche Catta in realtà. Stavo dicendo Catta, sì. Perché loro non lavorano, però sono comunque medio borghesi. Sì, sì, capito. E... Allora. Il taser dobbiamo segnare le munizioni. No, però potrebbe scaricarsi in futuro e dovrete fare ricomprare la batteria. Altra cosa, l'ultima domanda, per quanto riguarda la salute del mio busto, che è ancora a 30 punti attuali. Sono passati due giorni. Tu stai peggio di me? Sì, è quello che sto dicendo. No, ma quasi tutti stanno peggio. Io ne ho 60. La mia domanda è, devo andare per forza in ospedale o col tempo piano piano mi rimetto a posto? No, col tempo ti rimetti a posto. 10 nel pugno. Okay. Va bene. L'unico allora che in questo momento deve farsi medicare è Arci. Certo. Sì. Certo. Vabbè, ok, però... Direi che avete assistito al quinto episodio di Unstructured Heroes, che era anche l'ultima sessione del 2016. Buon Natale, buon Natale, buon anno. Andate a vedere Rogue One se non l'avete ancora vista. È tutto quello che volete. Attenti alle bottiglie di birra. Andate sul blog. Ascoltate il podcast. Scrivete su Facebook, E abbiamo anche un aggiunto a parte delle descrizioni per le bambine, dei nostri personaggi di Abstracted Heroes. Abbiamo altre cose da comunicare? Sì, sì, che quando torneremo nuovo anno sarà con? Sarà con Petrolieri Spaziali, perché ero fatto salire l'hype e quindi torneranno i Petrolieri Spaziali che avete adorato in passato. E con questo vi salutiamo e oggettivamente oggi abbiamo sentito la mancanza. Abbiamo. Ma la sentiremo più o meno per sempre, direi. E va bene, buon anno e buon Natale soprattutto a tutti voi.